Sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, il padre che scopa la figlia, il nonno Finocchio che incula il marmocchio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Come mia mamma mi ripete tutte le volte, i lupi non possono mai diventare vegetariani. Comunque ragazzi, il mondo sta cambiando, cioè sta cambiando tutto, io sono molto preoccupato, sono veramente molto molto preoccupato. Che è successo? Che è no, successo? Ma sono veramente angosciato, quasi abbattuto direi, cioè Berlusconi che diventa vegetariano è veramente una notizia. Pensavo Berlusconi spiato, cioè, dagli americani. Che, ma chi se ne frega, quello certo, spiato sì, dagli no, americani. Ma giusto, scusami, è vero, scusa. No, giusto. Ma quello, qualcuno pensa alla commissione d'indagine, il solito Brunetta. Commissione immediatamente d'indagine, americani, Obama, nero, ma nero dalla vergogna, per aver spiato un grande capo di Stato, fatto cadere con il complotto, e lo spread al 2,4, io ero ministro da ministro ero candidato al Nobel, e il PIL al 2,4 più il 2,1% Nobel. Meno il 4 dello spread. Comunque a me mi angoscia questa cosa di Berlusconi, perché uno che ha 80 anni si fa convincere non so da chi, dalla Brambilla, da qualche guru, da qualche massaggiatore, dalla Pascale, non si sa, a diventare vegetariana a 80 anni. Ormai a 80 anni se ti devi prendere qualcosa te la sei presa, cioè hai mangiato talmente tanta di quella carne, cioè ti sei però talmente ingozzato tempi, di carne, di pesce, eccetera eccetera, che è veramente inutile. Tant'è che la questione è addirittura etica, cioè peggio, non è nemmeno una questione alimentare. Da quando ho letto delle sofferenze degli animali, ci ho messo 80 anni per capire come funzionano gli allevamenti eccetera eccetera, vabbè, da quando ho letto delle sofferenze degli animali che viaggiano verso il macello e quindi verso la morte, mi è passata la voglia di mangiare carne. Posso farne a meno della carne e lo farò. Stiamo parlando di creature meravigliose, come si fa a ucciderle, come si fa a mangiarle? Ragazzi, io non ce la faccio più, cioè il mondo sta veramente cambiando, io ho l'angoscia di questo nazi veganesimo, di questo fondamentalismo. C'è Berlusconi che si preoccupa delle sofferenze degli animali. Poi per carità ci sono tutte le battute, no? Niente più maiale per Berlusconi, d'ora in poi solo fighe di legno, e gli è sempre piaciuta la patata, eccetera eccetera. Oppure gli piacciono il finocchio, vabbè, ma lo sappiamo tutte queste cazzate, dai, basta. Adesso qualcuno si sta interrogando sul ragù. C'è qualcuno all'interno delle cucine di Berlusconi si sta interrogando, ma il ragù lo dobbiamo fare oppure no? No. Qui c'è lo zampino della Brambilla, però, C'è lo zampino della Brambilla. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Ragazzi, vi faccio ascoltare un super freccero, Il consigliere di amministrazione della Rai. No, prima risentiamo l'imitazione di Crozza che mi fa impazzire. L'imitazione di Crozza mi fa morire. Prima l'imitazione di Crozza, che è quasi uguale. Poi un Freccero che è intervenuto a Radio Onda Rossa. La cosa meravigliosa è questa. Cioè, Freccero contro Obama su Radio Onda Rossa. Cioè, risponde, potrebbe chiamare pure Radio Minchia di Cane. No, con tutto rispetto per Radio Onda Rossa. Potrebbe chiamare pure, che ne so, cioè, no, qui BBC 4. Lui parla. Ma naturalmente, voglio dire una cosa forte, voglio riportare Gino Bramieri in Rai, con Crozza, ma certo, ma sì, stupido, sì, alto e basso, ma naturalmente, non succedeva nulla. Poi se la piglia con Sgarbi, che dice che non c'entra niente con la cultura, con Eco, perché pare che sia, hanno sentito il parere di Sgarbi sulla morte di Eco. Senti, senti. Quando è morto ieri, domenica, Umberto Eco, alle 13.30 sul TG1, c'era a commentare la morte di Eco uno che proprio non c'entra nulla. Sgarbi, ma non c'entrava nulla. Sgarbi non c'entra nulla con Eco. Eco proprio non ha studiato, non lo conosce. Non ha studiato. Vittorione, non hai studiato. Poi se la piglia con Obama. La cosa più meravigliosa è questa, se la prende con Obama. Quella è Freccero contro Obama. E poi c'è la nostra corrispondente da New York, che è Obamiana. Obama. Basta, non se ne può più. Sì, siamo d'accordo. D'accordo, ma Obama ha fatto una politica estera disgustosa, insopportabile. Questo Obama. Quando sento Obama mi devo girare subito. Bene, sono stato chiaro? Sono stato chiaro? Poi dice che Obama fa il frocio col culo degli altri. Proprio così dice, fa il frocio col culo degli altri. Poi d'altra parte la strategia, come sapete tutti quanti, Obama è: creiamo casino, poi dopo interveniamo. E pare in qualche modo, come tu sai benissimo, posso essere, no, non posso, perché sennò è politicamente... Mi puoi fare quello che vuoi, insomma, non allora, mai... Allora, però mi chiedo, che c'è, cioè, l'espressione romana, fare il crocio col culo degli altri, insomma, ecco, cioè, quindi scusate, però l'espresso già... Ecco. Però al di là di Freccero, al di là dei soliti litigi in televisione... Zancan contro Librandi un'altra volta, il gioielliere, quello là, la pistola d'oro che abbiamo intervistato anche noi, contro Librandi, deputato di sciolta civica. Sentiamo pure questo, dai, sentiamo. Perché ha fatto sta cosa? A parte gli aspetti commerciali, ovvi. Speculare sulle disgrazie. Intanto Librandi, le disgrazie sono le mie, non le tue. Ma guardi, è proprio geniale. Le disgrazie sono le mie, non le tue, intanto. Guarda, tanto per cominciare non sei neanche originale, perché queste cose le facevano già 20 anni fa una ditta RCM di Valenza. Posso rispondere? Non, perché sei un genio, non ho tempo da perdere quelle idiozie che dice quel signore. Vabbè. Poi c'è anche Librandi contro Marcato, quello della Lega, ormai è un classico, eh? Sì, quello della Lega, come di Padova, presidente della provincia, c'è? No, che provincia? Ex. Il consiglio provinciale, un consigliere comunale, ex, non so cosa. Ex, vicepresidente della regione, credo. No, che sì, regione? Come no? In regione è finito quello lì. Sì. Mamma mia. Ma scusa, ma tu quando vai fuori di casa, la tua compagna, la tua moglie gli dà una pistola? Gli devi lasciare qualcosa di diverso, no, non una pistola. Gli do una fotografia tua, così se arriva qualcuno e un'altra... Dai. Ma tu lo sai qual è la cosa più incredibile in questa vicenda della Cirinà? La cosa più incredibile è che la stessa Cirinà dovrebbe dimettersi domani mattina, o dovrebbe lasciare la politica, perché lei stessa ha detto: se viene annacquata la mia legge, se non resta così com'è, io lascio la politica. Ora, ovviamente, questo non accadrà, e questa è una grandissima ipocrisia. Siccome hanno tolto l'adozione adesso, no? Cioè, la vera coppia di fatto è quella tra Renzi ed Alfano. Cioè, ti pare normale che un governo a guida PD deve scendere a patti con Alfano per le coppie di... per appoggiare una legge sulle coppie di fatto, sui proci? No, ma dai, hanno fatto su anche un mezzo favore a tutta l'area cattolica, tutto sommato. È un pasticcio, ma mica solo ad Alfano. L'ha fatto un mezzo favore anche a tutta l'area cattolica del PD. Renzi non ha avuto coraggio, dai. Sì, Renzi dice tutto, ma cioè meglio, no, meglio una parte oggi che no, niente. No, guarda, no, la lettura è questa: Renzi non ha avuto coraggio di andare fino in fondo, quindi ha preferito dire: ah, io sono il presidente del Consiglio che ha portato a casa in Italia le unioni civili. Sì, ma questo è l'analisi perfetta. Sentiamo Renzi, sentiamo Renzi. Il tuo Galli della Loggia della Zanzara, che sarei io alla fine. Dovendo scegliere tra il tutto mai e il niente oggi, è meglio fare un pezzo immediatamente e chiudere entro la settimana la discussione e votare e portare a casa la prima lettura di questa legge. Poi ieri c'è la risata collettiva, sì, quando ha parlato della Salerno-Reggio Calabria. Questa è la cosa più bella, eh? cioè che saranno terminati non so quando, a dicembre, i lavori della Salerno-Reggio Calabria, che solo evocarla porta sfiga. Cioè solo parlare della Salerno-Reggio Calabria, l'unica cosa che uno deve fare è non parlare della Salerno-Reggio Calabria. So che non ci crederete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria, tenetevi forti. E no, e a tutti quelli che hanno fatto saremo costretti a fare un pezzo da Salerno-Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. Hitler aveva un micropene e un solo testicolo, caro Parenzo. Un micropene, si dice da sempre che non fosse particolarmente dotato. Forse la spiegazione del suo estremismo, la spiegazione della sua ferocia è in questo micropene, in tutte le turbe mentali che poteva avere, no? Che ne conseguono da questo micropene hitleriano. A proposito, non è che voglio fare un paragone, Adinolfi, detto anche Adinolf, no? Ma non lo voglio accostare a Hitler, adesso per carità. Non mi chiamate paragonato a Adinolfi a Hitler. Chiarisci bene. Dice bene, che bene. La donna, per la donna fare la mamma deve arrivare sempre prima. Cioè prima la cosa più importante è fare la mamma, deve, poi il che resto. Senso deve. Che ne so, senti Adinolf. Che deve. Senti Adinolf. Ma lo dico alle donne, non fatevi imbrogliare. Non credete a questo spaccio per cui bisogna andare di corsa a fare le impiegate e sacrificare per questo il fare le mamme. Fare le mamme viene prima. Fare le mamme, ognuno potrà scegliere di fare il cazzo che vuole, no? Cioè fare le mamme, c'è gente che non vuole fare la mamma, gente che anche se ci sono donne che fanno le mamme ma nello stesso tempo vogliono anche fare carriera e dunque mettono prima la carriera e poi i figli, allora qual è il problema? Affidano tutti alle babysitter, alla grande, alle badanti, così circola denaro, lavoro. Ottimo. Non è che esiste solo il modello Adinolfi, questo mi fa impazzire, il modello Adinolfi. No, certo. E dai. Quando sento il traffico divento pazzo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi andiamo, dai, 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701, solo audio, non mi rompete i coglioni, audio e cose scritte, non lasciate messaggi sulla segreteria. Luca da Brescia, vai Luca. Luca, ciao ragazzi. Vai, dimmi. Buonasera, ben ritrovati. Allora, Berlusconi vegano, ma stiamo scherzando. No, vegetariano, adesso non esageriamo, vegetariano. Cioè, vegetariano, già. Vabbè, quello che è. Beh, è diverso. Beh, qua siamo alla follia pura. Beh, anche secondo me vegetariano è no, ma follia. 80 anni vegetariano, poi soprattutto esatto, 80 anni. Ma io non ho capito problema, cosa vi stupisce anni. Però perché vi siete così tutti stupiti del fatto che un signore che certamente uno, è stato perché uno 80 anni, dai, ma cioè, dai su, ma che roba, ma perché dice ha scoperto adesso, ha scoperto solo perché è Berlusconi, ovviamente. Ma scusa, certo che è Berlusconi, tutto quello che dice Berlusconi ancora. Cioè, ancora viene considerato tra importante. Le tante, permettetemi che tra le tante stranezze di Berlusconi, questa mi pare la più normale, però. Ma insomma, scusa. Quando uno parla della sofferenza, io vi chiedo scusa. La sofferenza degli animali, ma di permetto, che parliamo? Dai. Mi permetto di dissentire che rispetto alle tante stranezze al quale quest'uomo ci ha abituato. Ma quali sarebbero le stranezze? Trombare? Non ho capito, che gli piace la figa. Qual è la stranezza? Ma non no, ho capito. Ma voglio dire, da Rubi ruba cuori. E che è una stranezza, che è una stranezza quella? Non ho capito. Oddio, amico mio, sei è normale che uno inviti a casa 30 donne, più bene, normale questo che diventare vegetariano. Allora ti sembri così, cioè, strano il fatto è di normale fare, lascia perdere l'aspetto politico, è normale fare bunga bunga, non è normale secondo me a 80 anni diventare vegetariano perché scopre la sofferenza degli animali. Scusami, Invece quando uno invecchia diventa più sensibile. Come, scusa, Luca? Che è meglio andare a minorenni che mangiare il salame. Ma lascia perdere le minorenni, ho detto semplicemente è meglio, però, è molto più normale bunga bunga. Cioè le orge, adesso chiamiamole così, non so se siano avvenute o no, le orge sono molto più normali di fatto che a 80 per anni te, adesso voglio dire, uno a 80 anni può diventare più salutista, essere anche più sensibile. A 80 anni uno dice, da quando ho letto delle sofferenze degli animali che viaggiano può verso il macello, gli anziani sono più sensibili dei cioè giovani. Prendono consapevolezza. Bah, ragazzi, Eleonora da Roma, dai, mi fate incazzare stasera, Eleonora, dai. Ma perché vi stupite tanto che una a 80 anni diventa vegetariano? Beh. Come se una a 80 anni ormai non debba pensare alla sua salute. Ma no, ma te sei mangiato una vita di carne, è inutile ma adesso. Ma è il momento buono per smettere, è il momento buono per smettere. Ma che no, non sarai mica vegana tu, non sarai mica vegana. Allora, guarda, io sono vegana. Ok? Però sono vegana da 3-4 anni. E vabbè. Dunque io sono praticamente, io, Parenzo, eccetera, siamo tutti complici di un gigantesco assassino, di una gigantesca strage nei confronti degli animali. L'ecatombe. Guarda, io purtroppo sono una vegana prima per motivi di salute e poi per motivi etici. Vabbè, quindi, comunque, sempre i motivi etici. Quello che fanno gli altri un po' me ne frega. Cioè. Me ne frega, non dovresti fregarti. Allora, sei una vegana finta, allora. Sono una vegana, diciamo, non così tanto integralista. Sono comunque abbastanza, come carattere, anche abbastanza. Vabbè, io non ho capito che, perché hai allora, chiamato. No, ho chiamato soltanto per dire che, appunto, perché Berlusconi è Berlusconi, ma comunque, prima di tutto, è un signore di 80 anni. Probabilmente avrà anche i suoi accertamenti di salute, no? Che faccio, avrà colesterolo alto, che ne so. Ma non è che c'è bisogno di dire. Motivo più per diventare vegetariano. Sì, ma amica mia, il problema è quello che uno dice: stiamo parlando di creature meravigliose. Come si fa a ucciderle? Vero, come si fa a mangiarle? Ma che vuol dire? Ma hai mangiato per una vita fino a 80 anni carrettate di carne, di pesce, ammazzando giustamente, contribuendo a uccidere, perché di questo si tratta. I macelli. Animali? I macelli sono stati messi fuori delle città, proprio perché non si sapesse che cosa succedeva dentro. Ma perché sì, vabbè, d'accordo. Chiunque visiti un macello, poi ma è la solita frase: carne. Siete mai andati a un macello? Se andate a visitare un macello, sicuramente non mangiate più la carne. Io ci sono andato, ma me ne fotto totalmente. Dai, continuo ogni tanto a mangiare la cuore. Carne. Ma che vuol dire sono senza cuore? Senti, amica mia, gli animali da che mondo è mondo vengono ammazzati per mangiarceli? Questo è il punto, per essere mangiati dall'uomo. Anche noi eravamo animali che erano mangiati. No, non è così. Anche per essere animali che erano mangiati, dai. Senti, non mi convincerai mai su questo. Ciao, Eleonora. Carlo, Carlo da Roma, Carlo. Sì, ciao, buonasera, Giuseppe. Dimmi. Niente, volevo parlare del fatto del prefetto di Treviso, che ha detto che leva le case... Non leva le case, non ha detto che leva le case nessuno. Vorrebbe Parenzo ha detto la solita stronzata sua, capito? Eccolo qua, come si chiama questo professore? Carlo. Carlo da Roma, benissimo, Carlo da Roma. Guarda che la maggior parte dei messaggi che mi sono arrivati, Parenzo, sono tremendi contro di te. Ma non ho dubbi, ma non è che la cosa mi fa cambiare idea. Sentiamo cosa dice Carlo da Roma, allora. Sì, mi sente? Sì, Carlo, e io gli voglio far aumentare il suo budget, perché lei più vaffanculi prende e più budget di me. Carlo da Roma, vaffanculo. Il semiotico così Carlo da Roma. Sì, perché qua. Chi ha le case uno le deve affittare. Non chi ha le case, salame d'un salame. Abbiamo detto il prefetto, se lo ha detto, ha detto le case sfitte, salame d'un Carlo. Calma, senti l'altro, calma. Salame d'un salame, salame d'un sei un insaccato. Al cervello che è un insaccato. Ma questo Carlo, devi stare calmo. Devi stare, ma lascia perdere, stai calmo. Carlo dice una cosa molto semplice. Non le case in generale. Il prefetto se lo ha detto, ma sembra che non l'abbia detto peraltro, ma se lo avesse detto, ha detto le case sfitte. Quindi non le case così, io ho detto un'altra cosa. Case sfitte, che secondo me le case sfitte andrebbe intanto aumentata la tassazione per evitare di affittarle. Un'altra volta così da aumenta il budget. Carlo da Roma, Parenzo? Ma che palla fa? Entrano dentro casa, lui gli puoi sparare. E quello che fanno per strada, sti neri, bianchi, verdi, quelli Carlo, scusami un attimo, Parenzo ha detto una cosa, che a certe condizioni le case sfitte possono essere requisite dallo Stato. Affittate a tempo determinato. Casa mia faccio quello che voglio. Ha ragione. Affittate a tempo determinato. Devo pagare ancora più tasse di quelle che pagavo in Italia. Io piuttosto che darla allo stadio la brucio la casa. Perfetto, io sto con te. Bruciatevi la casa, bravi. Io piuttosto che darla allo Stato, ma non la, la brucio. Gratis. Lo Stato comunque non mi interessa. Un indennizzo. Decido questo io. Deve essere. Decido io. Non decide lo non Stato. È che la dai gratis. Ma quel giorno, ma i tuoi genitori, ma perché non sono andati al cinema o al teatro? Ma i tuoi, perché non hanno letto un libro quella sera di tanti anni fa? Un libro dovevano leggere quella sera, guardare la televisione. Perché questo dovevano fare. Questo dovevano fare. Quella sera dovevano leggere un libro anziché fare quella che hanno fatto, che poi è venuto Carlo da Roma. Pensa al contributo che ha dato all'umanità. Vabbè, Carlo, ciao, ciao. Roma. Fabio Udine, vai Fabio. Pensa a te. Ascolta, io sono una persona educata, rispetto tutti, però sì, anche io, come gli altri, sì, un buon paffanculo a David. Ma che è successo stasera? Che ci avete stasera? Che vi è preso allora, stasera? Che ha fatto? Subito, ti spiego subito. Io ieri sono arrivato a casa, ho acceso il computer e ho preso lo streaming, mentre guardavo voi con la faccia di Parenzo, avevo contemporaneamente acceso TG5 sì, e c'era un servizio su Mattielli. Su? Su Mattielli. Sì, Hermes Mattielli, sì. No, il signor Mattielli, che è un poverino, sì, hanno, è molto hanno arrestato uno dei Rom che fu... che fu sì, ha continuato a delinquere sparato, nella stessa diciamo maniera. Però se quel povero Mattielli ci sparava due colpi alla siciliana e lo scioglieva veramente nell'acido, quello non continuava a delinquere. E vabbè Fabio, però non è successo, e gli ha sparato e quelli là sono rimasti feriti. Hanno non deve dire che non bisogna sparare e ammazzarli, no, perché se io ci sparavo lo scioglievo nell'acido, sicuro, e finiva lì. Beh, mi sembra piuttosto, Fabio, mi sembra un po' complicato. Il tuo amico lo scioglieva nell'acido. No, non è mio amico. Beh, ti chiama Giuseppe. Eh beh, che c'entra, dai, mi chiama Giuseppe perché chiama la radio. Perché? No, è cos'è, di Cruciani. Però Fabio, scusami. Fabio, sì, tu come fai a scioglierlo nell'acido? Sì, adesso concretamente te lo spiego una volta, te lo spiega il tuo amico, te lo spiega. C'è un bel fusto da 200 litri sì, quello di ferro d'acciaio, sì, lo riempi a metà sì, lo puoi mettere anche vestito, l'acido scioglie tutto, solo che i capelli non sciolgono. I capelli, e allora? Con un rettino d'acciaio li bruci. Lì. Se c'è qualche mi sembri però un esperto di scioglimento nell'acido delle sì, persone. Beh, amici, guarda, eh? 43 anni, è nato, cresciuto. Sono? Scusa? Siciliano. Ma che c'entra? Anni. Non è che i siciliani sono esperti nel sciogliere le persone nell'acido. Cioè. Chi ha mangiato merda, scusami il termine, lo sa. Io merda ne ho mangiata tantissimo. Ma che sei, un ex che... mafioso, uno apparentato con qualche ma famiglia? Magari mio padre era magari. Dice. Perché stavo magari? Perché magari? Ma perché stavo bene. Cioè non mi dire che per l'Italia te la mafia... non mi dire che per te la mafia fa cose buone. No, non fa cose buone, ma per lo Stato il mafioso se la passa meglio di uno che lavora, si rompe il culo lavorando e guadagnando qualcosa per la hai famiglia. Capito? Cioè, non ho capito, cioè il mafioso no, se chiaro, la passa meglio. Beh, certo, ruba, uccide, taglieggia, ammazza. Ma io sono contro la mafia, attenzione, guarda che io ho fatto i vespri siciliani. Cioè, amico mio, ma hai detto come si scioglie nell'acido una persona? Cioè, non mi pare che ma se... lo sanno tutti, ma in Sicilia, chiamo un siciliano qualsiasi. Ma non lo sa nessuno, lo sai tu come si scioglie nell'acido una persona. Fermo là, fermo. Parenzo, dai, è casa tua gli ha dato. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, nuove storie a Il Falco e il Gabbiano. L'uomo che ha viaggiato prima col corpo e poi con la fantasia, Ambrogio Foga. L'attore vittima della sua bipolarità, Peter Sellers. Uno straordinario uomo d'altri tempi, l'allenatore Nereo Rocco. Colui che ha fatto delle arti marziali un grande spettacolo, Bruce Lee. Varcando le frontiere del sesso per uno sberleffo al potere, l'editore Larry Flint, il signore della pornografia. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. La Zanzara. Cruciani, ti chiamo dall'America. Ieri un connazionale che mi vende l'erba mi ha detto che pure lui durante le varie consegne in giro per la città si ascolta i podcast della Zanzara. La Zanzara è tipo una rete trasversale, una società segreta tipo Fight Club. Siamo ovunque. Parenzo, non ci fermerai. C'è una rivolta, secondo me anche un po' esagerata, ragazzi, non esageriamo. Voglio essere buono oggi, voglio essere, perché sono depresso. Sono depresso per questo mondo che perché? Cambia. Perché? Perché sono depresso con questo mondo che cambia, con Berlusconi che diventa vegetariano, con queste notizie che dopo vi leggerò, sempre dal mondo vegano, dal mondo vegetariano, notizie che mi rattristano, un mondo che gira al contrario, un mondo che nega se stesso, nega le sue tradizioni, nega tutto. Il personaggio che i nazi vegani che imperano dappertutto. In questa radio c'è una trasmissione dove si dice che il genere umano deve scomparire. Sì, vabbè, ti giuro, adesso male. Ti faccio sentire tutto. Poco ti faccio male. E dunque sono depresso. Perché questa notizia di Berlusconi che diventa vegetariano mi ha messo un po' di depressione. Ti dirò una cosa, Ti dirò che i grandi produttori di carne italiani, che magari sono stati anche finanziatori per tanti anni della campagna elettorale di Berlusconi, devono prendere una posizione molto chiara a questo punto. Siccome Berlusconi dice che no, gli animali muoiono, eccetera, eccetera, beh, amici miei, se mai non vi fosse venuto in mente di rifinanziare di nuovo le campagne elettorali di Forza Italia, chiudete tutti i rubinetti. Tutti, chiudete tutti, tutto, bravissimo, chiudete bravissimo, tutto, bravissimo, amico bravissimo, mio. Certo. Produttore di carne italiana. Questo è giusto. Chiudete giusto. Tutto. C'è un'altra cosa che ti voglio segnalare, molto importante, molto molto importante. Viene da un ascoltatore, una cosa molto seria questa cosa qua. Un ascoltatore mi dice: è la solita cazzata di Berlusconi, la solita cazzata elettorale per procurarsi qualche consenso, eccetera, eccetera. E poi mi fa vedere una grafica. Tu dirai che palle, una grafica. Eh no. È la grafica di un'azienda che si chiama Molmed. Che è un'azienda qui lombarda. Non mi dice nulla. Pare specializzata in biotecnologie. E lui mi scrive sopra: sperimentazione animale. Cioè, questa azienda pare che faccia sperimentazione animale. Ma tu sai chi è l'azionista di maggioranza di questa azienda che si chiama Molmed? No. Fininvest, amico mio. Oh, Fininvest. No. E le grandi con inchieste, no, non c'è nessun grande inchiesta. C'è un ascoltatore che mi ha segnalato questa cosa qua. Allora, se una è vero, tarpa, allora, tarpa, se è vero, ragazzi, se è vero, andate a informarvi voi giornalisti, eccetera, eccetera. Vi do anche questo spunto per chi si stia interessando della vicenda Berlusconi, vegetariano, eccetera. Cioè, Fininvest sarebbe azionista di maggioranza di un'azienda che fa sperimentazione animale. Allora, se fosse coerente con se stesso, Berlusconi, dopo questa sparata sui vegani, sugli animali che soffrono, sui macelli, eccetera, eccetera, tolga tutti i quattrini da questi investimenti. Questo si tolga via dagli investimenti. Non è che puoi fare l'azienda, mio. Ho capito, non è che puoi fare. Io sono a favore della sperimentazione animale. Però tu non è che puoi fare sperimentazione animale e dire nello stesso tempo che gli animali soffrono perché vengono ammazzati e io non mangio più la carne, poveri animaletti, Vuoi fare la brambilla? Vuoi fare la brambilla coi pantaloni? Allora vai fino in fondo, Allora, dicevamo della rivolta contro Parenzo da parte di molti ascoltatori, devo dire. Una rivolta. Perché Parenzo dice che i privati possono in alcuni casi subire un vero e proprio esproprio per accogliere i profughi. Cioè, devono affittare, se lo Stato vuole, ai prezzi decisi dallo Stato, le loro case sfitte. Cioè, se tu, voi avete la seconda, la terza, la quarta casa e succede un'emergenza in un posto, a Treviso, perché pare che lo abbia detto, come sapete, il prefetto di Treviso, oppure in un'altra città, lo Stato in alcune occasioni può dire: amico mio, ti affitto questa casa sfitta a 300, 400, 500, non al prezzo di mercato, ma al prezzo che decido io. Una follia. Ascoltatori scatenati. Porca puttana, Parenzo, la casa sfitta ai migranti, non puoi dire queste cose, non le puoi pensare veramente, ma porca puttana, ma va, ma mettiteli in casa te i migranti, ma che cazzo dici, porca puttana! Ho due case sfitte. Primo, se entrano, entrano a quanto dico io e quanto voglio io, e voglio un'assicurazione dello Stato che non succeda un cazzo. Secondo, io poi vado a vivere da Parenzo. Parenzo, nella mia casa sfitta, il migrante, se ce lo mettono, lo brucio dentro con la casa, tutto quanto. Parenzo, sentirti parlare è un'offesa. Falla finita di prendere le cose degli altri e offrirle agli altri. Offri le tue. Vabbè, quello là che ha detto brucio dentro la casa è un coglione, eh. Quello che ha detto brucio dentro la casa l'immigrato è un coglione. Questo succede quando... Però questo... c'è una... Questo succede quando si aprono le fogne, come ma io... No, più ma volte che fogne, so... no, dai, come su. Si chiama? Ma come si chiama? Dai, che vuol come dire? Come si chiama, vecchio mio? Come si chiama sta non roba? Non è le fogne, è gente che si sfoga quando tu dici che bisogna dare le case sfitte allo Stato. Ma è gente che dai. Si sfoga, le fogne, devi usare le parole. Ma le non parole è le fogne, giuste. Non esagerare. No, cos'è? Dai, Cambridge, ma... Oxford, cos'è? Sfogatoio, Marco da Bergamo. Sfogatoio, Marco fogna, da Bergamo. Non c'è solamente gente... Fogna. Non è solo gente che si sfoga, è anche gente che ogni tanto, non sempre, cerca di mandare, di comunicare un messaggio, un piccolissimo ragionamento, una, un epitaffio. Una sì, una freddura, un insulto anche qualche volta, un'idea. Marco da Bergamo, vai, sentiamo questo Marco, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi Marco, dimmi. E Parenzo. Ciao Cruciani, volevo dirti che sei un po' uno stronzo, insomma. Più sì. Che stronzo, un pezzettino di merda. Ma che vuol dire? Perché? Mi dici questo, caro? Ti dico questo perché come tu te ne freghi della sofferenza animale... uguale te ne freghi della sofferenza umana. No, amico mio, no. La prova sai qual è? Qual quando è? Tu non sei stato impressionato dal bambino siriano morto sulla spiaggia. Ma che c'entra quello? Sono due cose diverse. C'entra, non... Questo c'entra, perché chi è sensibile verso la sofferenza di una formica è più sensibile di chi non è sofferente. No Marco, non credo che tra le due cose, non dire stupidaggi, non c'è un collegamento tra queste due cose. Non... C'è un collegamento perché... A parte che io non ho detto che mi fa piacere che gli animali muoiano, semplicemente lo ritengo inevitabile. Sì, me ne fotto, sì, devo dire la verità. Come se ne fotte il 90% della popolazione italiana, eh? Cioè, forse tu sei più sensibile, tu sei per caso animalista, vegetariano, vegano e compagnia cantante? Cerco di essere vegano. Anche se a volte mi scappa un pezzettino di formaggio o cosa, ma comunque... Beh, un pezzettino di formaggio è un peccato grave, eh? È un peccato grave, bisogna dire. È il pensiero, perché anche se una persona lo fa, ma solamente una volta, sì. Ok? Ma quello vale... E perché se una persona... Perché se una persona... E perché se le persone le fa una sola volta? Se io mangio formaggio, che succede? Non ho capito, Marco. Se tu mangi formaggio, fai in modo che un'industria gigantesca... comporti l'uccisione di un sacco di animali, perché la mucca deve stare ingabbiata in una gabbia. No, la mucca fa la sua vita, produce il latte, produce altre cose da cui si fanno i formaggi, eccetera, eccetera. Ma cosa cazzo deve fare la mucca, ragazzi? Ma che deve fare la mucca nella vita? Che deve fare? Cosa cazzo devi fare nella vita? Che spari solo puttanate alla radio prendendo 300.000 euro all'anno e dicendo cazzate totali. Scusami Marco, apprezzo questa tua ferocia, questo tuo attacco, e sono anche contento di riceverlo, però devo dirti la verità che tra me e la mucca c'è una differenza, eh. Cioè, no, siete uguali, perché scommetto che tutte voi due avete le corna. Beh, le corna sì, può darsi. Ma lui le ha con gioia. Io ce le ho con gioia, è felice sì. Di averle. Lui, o comunque lui vorrei averle con gioia. Vorrei averle comunque con gioia. Scusa la mia battuta. No, ma dopo quello che mi hai detto, amico mio, è diciamo una cosa meno forte che mi hai detto, non lo so. No, cioè... no, questa qua non l'ho detta proprio col cuore, è una battuta che mi è uscita male. Diciamo. Vabbè, ma va comunque, bene, Marco. Secondo che differenza c'è tra te e la mucca? Ma non c'è una differenza come tra te e la mucca, come tra te e la mucca. Non c'è nessuna differenza, sai perché? Perché tutti e due non vogliamo soffrire, tutti e due amiamo guardare il sole, amiamo calpestare l'erba. Ma che guarda, adesso la mucca guarda il sole, la mucca guarda il sole. Ama percepire il sole, cioè la mucca guarda il sole, cioè si mette... gli piacerà adesso, questo non è che sì, si può discutere, d'accordo, è certo, ovvio che gli piace il sole, questo mio cane sposta la coperta dal giardino dall'angolo all'altro seguendo il sole, né? Io non ce la posso né è bellissimo, siccome ma non ce la posso fare, siccome che tu sei distrutto, oggi sono depresso con questa cosa, nella bambagia a Roma, Piazza Navona. Ma che cazzo c'entra il culo nella bambagia a Roma? Che cosa minchia c'entra? Non sei mai stato a contatto con nessun animale, non sei mai stato a contatto con la natura, e la tua palestra di vita nella vita di empatia è stata ridotta a zero, capisci? Ma che dici? Non è che tutti quelli che vivono nelle città sono privi di empatia nei confronti degli animali? Io dici... penso proprio di sì, perché la Marco, ma tu sei una specie di nazi vegano, sei una specie il prototipo di quello che io definisco il nazi vegano. Ma sei il prototipo, guarda, potrei mettere nell'introduzione di questo libro che sto scrivendo, perché mi sono deciso a scrivere questo libro, Nazi Vegani. Potrei mettere, ho già trovato grandi editori, Grandi e De Mondrizzoli. Grandi editori. Non te lo dico, ma è come così. Combatti, vecchio mio, come combatti su potrei mettere fronti. Il tuo intervento, guarda, l'intervento di Marco da Bergamo. Ma no, è autorevole. Ciao però, Marco, ciao. Ma che cazzo c'entra l'autorevolezza? Non è mica un libro di persone autorevoli, dai, su. È un mondo che va al contrario, ragazzi. Mi sono depresso, dovete risollevarmi, se no non riesco a finire questa trasmissione. Qualche giorno fa ho letto, mi ero conservato un appunto, che un tribunale a Genova, un tribunale civile, ha riconosciuto, ti giuro questo, il danno morale alla padrona di un cane, un cane che si chiama Yuma, una meticcia, che è rimasta zoppa per un errore del veterinario. E vabbè, oltre alle spese per le terapie, è stato riconosciuto una specie di danno morale a questa signora, la padrona del cane. Lo sai perché? Perché adesso il cane non potrà mai più fare le passeggiate che faceva con l'animale. Cioè? È così. Cioè, alla padrona va riconosciuto il danno morale. Il danno morale. Perché c'era un progetto di vita comune, dicono. Siccome c'era un progetto di vita comune, che era passeggiare insieme al cane, è stato riconosciuto un danno di 5.000 euro a questa signora, perché adesso il cane, che è rimasto zoppo, non può più passeggiare insieme alla signora. Cioè, c'era un progetto di vita comune. Allora qualcuno ha ragione chi dice che prima o poi si arriverà all'unione uomo-cane, perché questo progetto di vita comune cosa vuol dire? Il progetto di vita comune, tu capisci? Io capisco che una persona possa essere attaccata al suo cane, e per carità è fondamentale la passeggiata col cane. C'è l'errore di un veterinario sul cane, per carità, deve essere sanzionato. Ma il progetto di vita comune, il danno morale. No ragazzi, non ce la faccio oggi, sono depresso. Dopo la cosa di Berlusconi. Ma tu lo sai l'altra cosa di Berlusconi incredibile? Che pare che, forse è una cosa, mi dicono. Io ho capito già... perché ti ha sconvolto. No, così mi ha sconvolto da 80 cosa. Anni questa scelta qua, che è una cosa solo dettata dalla brambilla e da personaggi intorno, non è una cosa sua, non può essere. E la sai quella cosa dei campanelli? Cioè, Berlusconi pare che andava in giro da piccolo con dei campanelli per impedire che di schiacciare le formiche. Meraviglioso. Cioè, con una specie di campanello attaccato alla cintura, in modo che qualcuno nella sua testa poteva scansarsi e dunque poteva non essere calpestato, cioè le formiche. Roba incredibile. Cruciani, mi sono innamorato di una vegetariana. Stasera devo andare a una pericena vegano. No! La zanzara. Sono Isabella Bossi Fedegotti, presidente di Puss Italia. La nostra ONG pensa agli ultimi degli ultimi cespugli. Io stessa non mi depilo dal 1944. Adotto un cespuglio a distanza, salvo una passera dalla barbara usanza del Brazilian Wax. Beh, questa è geniale sulla Bossi Fedegotti. Questa resta geniale, sulla signora Bossi Fedrigotti. Rimandala un secondo ancora. No, che rimando, secondo. Dai, su. Un attimo. Vabbè, dai, rimandiamo. Un secondo. Allora, pubblicità progresso, by Isabella Bossi Fedrigotti. Sono Isabella Bossi Fedrigotti, presidente di Puss Italia. La nostra ONG pensa agli ultimi degli ultimi cespugli. Io stessa non mi depilo dal 1944. Adotto un cespuglio a distanza, salvo una passera dalla barbara usanza del Brazilian Wax. Allora ragazzi, andiamo a Ferrara, Michele, vai! Grazie dell'opportunità, io vorrei fare un appello alle donne di questo paese. Addirittura, le donne sì. Di questo paese, appello alle donne di questo paese. Incazzatevi alle donne del pensiero, perché è una vera schifezza, proprio una porcata di ultima generazione. Ma che cosa? Questa cosa è che devono per forza fare le mamme. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha scritto? Ma dove sta detto? No, ma non è che Adinolfi dice che devono fare per forza le mamme. No, dice infatti. Che è meglio fare le mamme piuttosto che altre cose. Cioè... Ma è una cazzata gigantesca. Io ho avuto una madre che ha fatto di tutto per sopravvivere e mi ha dovuto mettere in asilo. Incazzatevi per avere più asili, chiedete più materne. Questo è il vero progresso. Sì, quello è vero, quello è vero. Altro che cazzate, quindi di nuovo, vaffanculo, posso permettermi. Io l'ho vissuta sulla mia pelle, una mamma che lavorava e che faceva la carriera, però è stata una grande mamma lo stesso. Che cosa vuol dire? Perché uno deve scegliere per forza di essere solo una cosa? Non esiste, non esisterà mai. Va bene, Brando Milano, vai. Brando? Ciao Brando. Giuseppe. Brando è un nome toscano, credo, Brando. Peraltro, boh, no? Non lo so, Brando, dimmi. No. Ciao Giuseppe, io dico che Parenzo o fa apposta, non so, fa da provocatore, cioè certe risposte che dà, sinceramente o ritengo una persona intelligente, ma io penso che lo faccia apposta. Allora io per gli extracomunitari, per esempio, che vengono dati gli alberghi e roba del genere, cioè qualcuno mi deve anche rispondere per quanto tempo, per 6 mesi, per un anno, a vita naturale durante, cioè visto che vengono a costare, ho letto sul giornale, 1.200-1.300 euro al mese, cioè poi dai alla gente 700-800 euro al mese di pensione. Allora scusa, gli diamo 700-800 euro al mese agli extracomunitari e risparmiamo 500 euro al mese, ma qualcuno mi deve dire quanto tempo. Poi per le case, lo stesso discorso vale per le case popolari. Io è giusto che va aiutato una persona, non so, per la moglie perde il lavoro, 2 figli, va aiutato. Brando, adesso, non è che stiamo facendo una trasmissione di economia, no, che volevi dire poi? Spiega. Allora io dico, anche la casa popolare va data per 10 anni, 15 anni, non a vita naturale durante. Io conosco gente che se la tramanda da padre in figlio, ma scusa, se va bene, Brando, lavoro, poi? E poi dico per le case, la seconda casa. Io ho una seconda casa, sì, al mare, di 40 metri quadri, ma io non sono mai andato fuori a mangiarmi una pizza. Io vabbè, Brando, che cazzo ce ne frega che tu non sei andato fuori a mangiarsi una pizza? Beh, che vuoi dire con questa cosa? Magari possiamo essere dispiaciuti, no? A te piacerà viaggiare, chi fa la correzione vabbè, di vabbè, allora, chi... dunque? E allora la proprietà è mia e non va toccata. Ah, lì vuoi arrivare, dici la tua proprietà non va toccata e lo Stato non mi deve rompere le balle per darle ai profughi. Va bene, Brando, tutto sto ragionamento per dire lo Stato non mi deve... può prendere, non mi può affittare la casa mia sfitta. Io se voglio la lascio sfitta per 20 anni, ma è la stessa cosa che penso io, per cui Nunzio da Milano, vai. Sì, buonasera Crociani. Dimmi, buonasera Nunzio. Anche al grandissimo Dai. Parenzo. Vai, io volevo darti uno spunto di riflessione per il tuo libro sui nazi vegani che sicuramente leggerò. Mi è capitata questa conoscenza di una persona che frequenta questa piscina Hare Krishna. La piscina come, scusa? La piscina? Hare Krishna. Cioè perché esiste una piscina indiana, non lo so cosa di origine indiana come Krishna, appunto il dio. Cioè esiste una piscina Hare Krishna, che vuol dire? È una piscina dove dove si pratica l'Hare Krishna. Perché io volevo, aspetta, perché io volevo appunto la tua opinione di noto fruttariano e crudista. In questa piscina praticamente non è possibile disinfettare l'acqua con dei disinfettanti come il cloro. E perché? Perché la dottrina Hare Krishna, a quanto pare, professa, non so se chiamarla dottrina, professa il rispetto assoluto per tutte le forme di vita, quindi inclusi i batteri. E quindi includendo i batteri non si possono uccidere con il cloro. Ora, cioè il cloro ucciderebbe i batteri, dunque? Situazione... A me sembra che questa situazione stia sfuggendo di mano, nel senso se addirittura il rispetto, il nazi-veganesimo, non so come chiamarlo, si estenda addirittura ad altri regni che non siano quello animale o vegetale. Beh, ma cioè, in realtà sono con i funghi, in realtà sono coerenti da questo punto di vista. Cioè, anche quando tu vai con la macchina, ammazzi dei moscerini. Dunque, tutti i vegani o nazi-vegani, quindi, come li chiamo io, quindi... dovrebbero evitare di prendere la macchina. Perché e prendendo la macchina... anche ad esempio di prendere non so, un antibiotico quando hanno mal al pancino. Oppure addirittura sapone. Sapone uccide i microbi. Assolutamente, sì. Ma tutto quello che comporta la morte anche di un animale piccolissimo dovrebbero evitare per esempio di camminare. Perché camminando sicuramente schiacciano qualche formica. Ad esempio questo potrebbe portare ad esempio alla diffusione di epidemie e quindi uccidere altre persone che sono esseri viventi. Nunzio, come credo ci sia qualcosa di incoerenza di fondo in un nazi veganesimo di questo tipo, perché poi di nazi vegani si tratta. Ciao. Però mi viene un sospetto, Parenzo, che Berlusconi abbia preso questa decisione di diventare vegetariano per trombare meglio. Perché tu sai che qualcuno deve aver messo in testa che i vegani trombano meglio. Cioè, i vegani do it better, come si dice, no? Sì, cioè, beh, che lo fanno lo dicono. Sai, no, che no, una no. varia teoria vegana, sì, eccetera. Sì. Beh, forse qualcuno lo deve aver convinto. Forse la chiave è quella di interpretazione. Cioè, lascia perdere la propaganda, le cose, la sofferenza degli animali. Qualcuno deve aver detto a Berlusconi, a Silvio, guarda che secondo me se diventi vegetariano o vegano, se meno carne mangi, meglio trombi. Secondo me questa può essere la chiave con Berlusconi. Qualcuno deve aver usato, forse la stessa Brambilla, questo grimaldello, no? Questo grimaldello del sesso, sì, e potrebbe averlo per introdurlo convinto. È un argomento che sì, che a lui probabilmente è un argomento che sta convincente. Molto, esatto, che sta molto a cuore. Anche che... per te dovrebbe essere un argomento è vero, convincente. Hai ragione, però io siccome non cedo di fronte a queste follie, non cedo di fronte a questi miraggi, a queste promesse così vaghe, anche perché poi abbiamo sentito noi diversi scienziati che ci hanno negato questa cosa. E comunque in questa radio c'è una trasmissione, come sapete, che si occupa di cani, di gatti, eccetera eccetera, che si chiama Chiedimi se sono felice, in cui qualcuno sostiene di odiare gli umani che si devono estinguere. Sentiamo. E beh, poi per amare gli animali si sa che una certa sensibilità devi avercela, no? Quindi... Sì, soprattutto ho un odio per gli umani, è per questo che... Ma quanto ti adoro! Ma che quanto ti adoro! Ma smettetela tutte e due! Sono d'accordo, io dico che l'uomo si deve estinguere come i dinosauri. Ma non è vero! Che l'hai incontrata prima di me, mi dispiace. Allora, il trio era composto dalla signora Celentano, come al solito, dal suo compagno signor Baira e co-conduttore di questa trasmissione, da Enzo Iacchetti. Allora, abbiamo appreso da questa cosa che Iacchetti odia gli esseri umani, e vabbè, d'accordo, forse anche lui è vegetariano, non lo so, sarà passato, è chiaro che lì non si possono non invitare persone della stessa stirpe, come dire, no? Della stessa banda. La signora Celentano ha detto come ti adoro perché odia gli esseri umani, odia l'umanità, si devono estinguere. Cioè noi ospitiamo una trasmissione in cui una signora, per carità, poi io ho un debole perché è molto bella, è una bella donna, dice si devono estinguere gli esseri umani. Una cosa pazzesca, dai, su. Pierangela da Brescia, vai, Pierangela. Buonasera. Dimmi. L'apporto conoscenza di questo episodio. Sì. Ho un piccolo appartamento in città. E a suo tempo avevo locato a questa. Pierangela, può alzare un attimo la voce, altrimenti mi annoio e mi rompo i coglioni dopo due secondi. La voce è molto educata. Mi scusi, un attimo, una voce leggermente più alta, altrimenti mi viene il latte alle ginocchia, mi viene un senso di fastidio fisico, ha capito? E allora non seguo più, non la, e la tratto male. Invece non la voglio trattare male. La ringrazio. E allora mi dica. Però di alzare la voce, ma un po', io ma un po', ma leggermente, guardi, giusto per rendere comprensibile anche fluido il discorso, vai. La ringrazio. Allora, affitto questo piccolo appartamento a questa persona di colore che aveva un buon lavoro. Dopo poco si chiede la ricongiunzione. Sì. Ma questo qua è un extra comunitario? Chi è un extra comunitario? Questo qua? Benissimo. Allora? Si è sempre comportato bene. Lo perdiamo un po' di vista per il fatto che comunque lui pagava regolarmente la locazione. Andiamo al sodo. Dopodiché al sodo, sì. Questo mi fa altri tre figli e non mi paga più l'affitto. A questo punto, cioè, quanti figli ci sono dentro questa casa? Cinque figli e moglie figli e marito. Moglie e marito. Moglie e marito. Marito, moglie, cinque figli. E di che nazionalità sono? È ghanese. Del Ghana. E dunque perché non l'ha mandato via? E dunque è perché non è possibile avendo figli minori. Quindi io ci siamo sacrificati una vita per poter avere un piccolo reddito una volta pensionati, ci ritroviamo a doverlo mantenere. Con l'impossibilità di mandarlo via. Sì, devo dire che la stessa cosa secondo me sarebbe accaduta con un inquilino italiano con dei figli dentro piccoli. Sì. Certo, se un inquilino entra dentro casa sua, lei gli fa un contratto di affitto, poi fa i figli e decide di non pagare, ci sono delle regole assurde secondo me che proteggono i figli piccoli e impediscono gli sfratti eccetera eccetera per un certo periodo. Follia totale. Uno se non paga la pigione, quello che cavolo come si chiama, pagava l'affitto di una casa, dopo 2-3 mesi al massimo, deve essere preso a calci nel culo. Ma a questo... calci nel culo in Italia, questo non avviene. Riguarda se chiunque. Uno per 3 mesi non paga il ma questo riguarda chiunque, però scusa. Sì, però in quel caso uno gli rode il culo, quello viene dal Ghana, sei extracomunitario, magari non sei manco regolare, eccetera, ti scoccia un po'. Posso capire la signora Pierangela. Signora Pierangela, come si può risolvere questa situazione? Possiamo dare una mano noi? Possiamo mandare Parenzo a casa sua a parlare con questo? Ma perché? Ci dia il numero? No, questa è buona idea. Aspetta, aspetta. Aggiungo una cosa. Pierangela, mi dai il numero di casa di questo signore? Non ce l'ho in questo momento. No. Voglio il numero, voglio chiamarlo. Voglio chiamarlo perché prima voglio verificare quello che mi sta dicendo. Guardi, secondo non capisce un accidente di italiano. No, mi dia il numero di casa, gli voglio fare un mazzo così. La do alla madre, ai figli, qualcuno capirà l'italiano. Dico, scusi, perché non paga? Perché non paga pigione? Perché allora, non paga affitto al signore Pierangela? Perché devi parlare così? Magari parla italiano benissimo. Glielo dico io il perché. Perché? Perché dice che noi sì. Siccome lavoriamo in... lavoriamo entrambi, sì. Possiamo non riscuotere l'affitto. Vabbè, io lo manderei a fare in culo subito. Scusi, mi dia il numero di telefono, la prego. Guardi, le risolvo un problema. No, le posso risolvere un problema? Sono, guardi, non, io il numero personale di questo. Ma non me lo deve dare. Non ce l'ho. C'è la mio marito che in questo momento. Il numero di casa. Il numero di casa. Non ha un numero fisso. Figuriamoci se questi fanno un telefono fisso, sti disgraziati. Beh, disgraziati. Ma sono dei morti di fame, dai. Hai già emanato sentenza. Ma scusa, ma io credo più a Pierangela che al Ghanese con 5 figli che non vuole pagare l'affitto. Scusami, abbi pazienza. Signora Pierangela, la voce molto gentile, molto, molto chiara, molto semplice, che ci ha detto che. No, ma io non contesto, infatti, non è che ho detto. Ci mancherebbe pure contesti la signora Pierangela che vuole i soldi dell'affitto da un signore che ha fatto i figli per rimanere dentro la casa, dai, su, ma è una vergogna. Signora Pierangela, però, adesso la metto in comunicazione con la Spectra. A me piace la civiltà con la quale la signora, a te innervosisce, perché la signora non ha mai usato la parola cazzo o a fare in culo. No, ma che c'entra, scusa? E ti innervosisce per questo. Ma mentre lei con assolutamente. Ti conosco, mascherina. Mentre la signora, con grandissima educazione, però, ha espresso dei concetti forti. Ma non è vero. Senza per forza dire cazzo, fare ma non culo, è vero. Porca puttana, quello è uno stronzo. Traffico, meteo, borsa. Signora Pierangela, è così, può comunicare alla Spectro della Zanzara, per favore, qua dietro, dopo è gentile, il numero di gentile. Telefono di questo signore, che le risolvo davvero un problema? Mi riprometto di richiamarvi. Mi riprometto richiamarci. Mi riprometto non di risolvere adesso. Adesso però mi arrabbio con lei, no, perché lei non vuole risolvere questo problema. Che glielo risolvo io con 2 telefonate. Le assicuro, allora, faccio scoppiare un casino tremendo a Brescia, ovunque. Paghi l'affitto alla signora Pierangela. Allora, abbiamo già agito legalmente. Ma legalmente ancora, ma ci vuole una vita, sì. Ci vuole. Qui si deve passare, esatto, alle telefonate della Zanzara. Vita. E appunto, una con una telefonata le risolvo tutto. Signora Pierangela, mi dia retta. Io con una telefonata con questo signore, come si chiama questo qua? Questo che risolve può essere. Come guardi. Si chiama? Come si chiama questo signore? Si chiama David. Questo pure! Beh, cosa c'entra pure? Ma cosa c'entra? Perché non si può chiamare David, scusami che capito. David, il ghanese con 5 figli. Che affitta senza pagare l'affitto. Provo a chiamarlo io, sono il mediatore culturale della Zanzara. Provo a chiamarlo io. Ma in non ci dà il numero la signora culturale. Signora, guardi, le assicuro che facciamo scoppiare un tale casino che le risolve un problema. Chiudo l'argomento in questo senso. Come chiude l'argomento? Chiudo l'argomento. Vedi, non dice parola, è perfetta questa signora, di un'educazione. Guardi, grazie per aver chiamato, signora. E scusi se alle volte in trasmissione volano troppi cazzi. Chiedo scusa. Comunque signora. No, non ci credo, signora. Se lei non grazie, mi dà il numero di grazie telefono. Grazie per il suo tono, perché ci ha riportato un po' di ossigeno, signora. Se mia, lei grazie. Non chiude, non mi dà il numero di telefono, io non credo a questa storia. Scusi che se l'ho interrotta. No. Scusi, se l'ho meraviglioso. Ma no, abbiamo ridotto la locazione. Sì. Vabbè, ma lei mi deve dare il numero di telefono, io le risolvo un problema, lo faccio cacciare entro una settimana da quella casa là, lo faccio mandare via. Apro un casino che metà basta con tutti i giornali di Brescia e della Lombardia. Su, andiamo, allora, forza. Abbiamo il fatto è che lei prova un po' di pietà, prova un po' di pietà. Sì, è vero. Mamma mia, vedi il buonismo che distrugge l'Italia, questo qua è. Lei lo deve mandare a calci in culo fuori da quella casa. Invece sì, provo un po', è come Parenzo lei, è come Parenzo, d'altra parte quello si chiama David. Cioè, no, lei è come chi? Parenzo, prova l'occupante il ghanese, sì. Lei prova un po' di, come dire, di tenerezza, però, giusto? No, tenerezza, signora. Rispetto però. Allora, la stavo rendendo dotta della conclusione di tutto. Bellissimo, di tutto, la stavo rendendo dotta, meraviglioso, brava signora, no, grazie. Allora, che cosa, lei non vuole mandarlo via perché... la transazione, alla fine abbiamo pattuito che ci paga una locazione irrisoria. Allora che cazzo mi ha chiamato a fare, scusa? Sì, ma ha interrotto anche quella. Ah, ha interrotto pure il coso. Pure e quant'è l'affitto, scusi? Sulle 400 euro. Ma questo era quello ridotto o il primo affitto? No, era il primo affitto. E poi adesso avete pattuito ridotto, quanto? Quanto avete pattuito? È ridotto alla metà. Allora, 200, ma non paga manco sì. Quello, ragazzi, bisogna intervenire, su, dia questo numero di telefono e facciamo intervenire la Zanzara, lo faccio cacciare. Però se lei come Parenzo, buonista come tutti gli italiani che dicono no, poverino, questo c'ha 5 figli, non si risolve una mazza. Arrivederci signora, mi ha fatto arrabbiare, arrivederci. Cruciani a Berlusconi e Filetto, piacerà per sempre. La Zanzara. Caro Parenzo, te ne ricordi i falchetti che stavano con Berlusconi, che furono portati dalla signora Santanchè alla corte di Forza Italia? Ma amico mio, ma come dimenticare quegli straordinari ragazzi che anziché guardarsi Dumbo, Alice nel Paese delle Meraviglie, Dumbo, grandi, oppure so. Qualche film di 007, o al massimo il canale a te molto caro, altrimenti detto YouPorn, hanno deciso di iscriversi e di fondare i giovani di questa Forza Italia. Azzurra Libertà, sì, Azzurra quello Libertà. Che, quello che vuoi, vecchio mio. Azzurra Libertà. Come ti pare. Io non ho sentito ancora però Capanna sull'occupazione delle cose, adesso dopo magari si collega, dopo si collega, credo. Stavolta un collegamento vero, Capanna su il professor Panebianco minacciata all'Università di Bologna, che è una notizia di ieri che non si capisce perché Capanna ogni volta deve intervenire sulle cose, capito? Quando ci sono le notizie non interviene, è una cosa pazzesca. Allora, questi falchetti hanno abbandonato Forza Italia. Il attenzione, movimento... un momento, no, la parola dai. Falchetto non me ne frega un cazzo di Zappacosta, zappare la terra, quella dovrebbero fare questi signori, zappare la terra, tornare alle origini. Ho letto una notizia straordinaria, i giornali non sono arrivati nelle terre che governo, cioè le terre dell'Umbria. Ieri hanno occupato letteralmente la facoltà di scienze politiche e preso a calci nel culo tal Panebianco. Già, uno che si chiama Angelo Panebianco. Non hanno preso a calci nel culo. Meraviglioso, un momento straordinario. Erano dagli anni 60 che non accadevano cose così meravigliose. In cui c'è un professore, un cosiddetto professore, un barone lo chiameremo noi, che era lì all'università intento a pontificare sulle ragioni della guerra. Un gruppo di arditi ragazzi armati soltanto di mazze, armati, attenti perché erano pacifisti, armati soltanto di poche e mazze, hanno fatto irruzione interrompendo completamente la lezione. Il professore codardo è scappato. Come ma non è vero, non è scappato. Oggi leggo un articolo di un certo signor Venanzio Postiglione, di cui ignoro quale sia il nome e quale il cognome, sul cosiddetto Corriere della Sera, altro giornale padronale, allora? Che dedica addirittura un articolo, quelle minacce in un'aula universitaria. Amici miei, sta ricominciando il 68, occupiamo le aule. Quattro gatti, quattro coglioni, cacciamoli a calci nel culo. Formidabili quegli anni. Avverrà anche questo quando tra qualche giorno sapremo chi è il cosiddetto chiudete. Presidente della cosiddetta Confindustria, un chiudete. Organismo che andrebbe abolito immediatamente. Illico atque immediato. Illico atque immediato. Andrea Zappacosta con noi, buonasera, buonasera. Ciao, buonasera, bentrovati. Come andiamo? Quanto tempo? Mi siete mancati. Allora, Andrea Zappacosta, cosiddetto ormai ex falchetto, ma in realtà questa organizzazione giovanile aveva un nome, Parenzo, che si chiamava Azzurra Libertà, se non sbaglio, no? Azzurra Libertà. Esatto, allora, avete rotto con Berlusconi, cioè avete detto sì. Addio, arrivederci amico, ciao, ma andate con Verdini, vi portate dietro non so quante migliaia di persone, oppure restate per i fatti vostri? No, per il momento rimaniamo un'associazione autonoma. Vabbè, ma dai Andrea, ma chi adesso fare nomi è del tutto inutile. Ma che sei, democristiano sei? Andate con Renzi, che fate? No, diciamo ovviamente adesso dobbiamo un attimo valutare le opzioni in le campo. Non vogliamo un centrodestra a trazione leghista, lepenista. Cioè non ti piace Salvini, ti piace Verdini, dai su, sei d'accordo no, con... No, ma guarda, nel senso noi adesso cercheremo in qualche modo, come dire, di... voler rappresentare quell'elettorato moderato che rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, alternativi agli estremismi sia di destra che di sinistra. Parenzo, ma di che stiamo parlando? Stai ascoltando? No, io signor sono Zappacosta che allibito, che dice Beniamino Andreatta, sembra rumor. Cioè, rumor Zappacosta, falchetto portato dalla Santa Catarina Berlusconi, dice che vuole rappresentare l'elettorato moderato contro la Lega. Ragazzi, siamo al top assoluto. Fermi un attimo, adesso ci racconta Andrea Zappacosta perché ha rotto con Berlusconi, che sembra una specie di Veronica Lario con i pantaloni. Dice i fatti privati di Berlusconi, forse c'è di mezzo pure una ragazza, una donna. Mi ha appena chiamato mia moglie che sta per nascere mia figlia. Podcast della Zanzara al massimo e si va in autostrada. E siamo al top. La Zanzara. Io non mi riprendo dalla notizia che Parenzo è del 76. Ma cacchio, riporta malissimo. Allora, Berlusconi diventa vegetariano, ma nello stesso tempo perde i falchetti, caro Parenzo. Aspetta un attimo, perché giustamente l'osservatore romano, cioè Davide Romano, sì, mi scrive, non so se vuole che si legga il messaggio, però ormai. Tanto, caro Zapaterra, lui dice, o sì, lo dici ora alla Zanzara, dove sì, vai, o c'è, se Vittorio, no, non lo che saprà mi sta nessuno. Chiamando, aspetta, c'è Sgarbi che mi sta chiamando. Aspetta un attimo, Vittorio che vuole, aspetta, metto viva voce. Vittorio! Eccomi qua. Dimmi, dimmi, hai sentito Freccero che ti ha detto che non sei un cazzo? Freccero ha detto, perché hanno fatto parlare Sgarbi al TG1? Perché hanno fatto parlare Sgarbi al TG1 sulla morte di Umberto Eco? Lui non sa niente, ignorante, così ha detto. Signor Freccero. Fammi chiami se vuoi, rispondiamo. Signor Freccero, signor Freccero. No, t'avevo chiamato prima, sono in diretta, poi ti chiamo, dai. Ciao, ciao, ciao. Che diceva su Zappacosta, non ho capito? No, dice giustamente il signor Romano, dice o ci dice subito dove va, oppure non è che tra qualche mese diventerà la notizia del giorno, questo è una constatazione, diciamo. Beh, caro Zappacosta, dici subito che porti, cioè, no, i tuoi giovani di Azzurra Libertà, ecco, esatto, nelle braccia del signor Verdini, perché tu apprezzi molto Renzi, per esempio, no, Zappacosta, giusto? Ma questo lo dite voi, io non ho fatto alcun nome circa il nostro futuro, quindi ho non capito, ho nient'altro da dire al riguardo. Quanti siete? Siamo 2500 in tutta Italia. Sì, questo, quelli che avevano sottoscritto la cosa. Questo può essere. Vabbè, mettiamo che siete 2500, però cosa... No, siamo, non mettiamo, siamo. Siete 2500. No, ma questo non cambia la sostanza. Cruciani, hai mai fondato un'associazione, tu? No, ma... E allora non puoi capire di che... Non sai di che stai parlando. Ma che vuol dire? Non so di cosa sta parlando. Così, fidati. Ma no, ma ho capito, ma che vuol dire? Cioè, lascia perdere. Dai, dimmi, prosegui con le domande, vai. No, ma perché ti sei arrabbiato? Un tono arrabbiato? Ti sei nervosito? Che è successo? No, sono tranquillissimo. Ma non ho capito, ma che cosa è che ti piace di Renzi, per esempio? Ma io non ho mai detto che mi piace Renzi, non so, voi mettete in bocca le parole che io non ho mai... No, hai detto. No, quando l'ho detto? No, ma ti piace Renzi, alcune cose di Renzi ti piacciono. Renzi ha avuto la capacità di fare una rivoluzione all'interno del suo partito, cosa che Forza Italia obiettivamente non è stata in grado di fare e probabilmente non sarà mai in grado di farlo. Oh, vedi, già questa qua è una cosa interessante, tu stai dicendo Renzi ha fatto una rivoluzione all'interno del suo partito, cosa che Forza Italia non è in grado di fare. Cioè Renzi è, come dire, fa le cose che dovrebbe fare Berlusconi, diciamo... Ma questo Renzi, ripeto, ha avuto una grande capacità di rinnovare il suo partito. Poi obiettivamente adesso sta dando, come dire, luogo a delle riforme che non bisogna, sulle quali non bisogna ragionare in maniera ideologica, ma valutare se sono delle riforme di buon senso, se non lo sono, e provvedimento per provvedimento vedere, votare o meno, insomma. Ecco. Vabbè, che è più o meno la posizione di chi si è andato da Forza Italia per rimanere nel governo, insomma, no? Vabbè, ma comunque lasciamo perdere per dire chi se ne frega, dai. Ma perché avete mollato Berlusconi? Cioè, questa storia qua che ho letto di una ragazza, no? Cioè, una donna dietro l'addio dei falchetti, una ragazza che sarebbe stata una di questi 2500 iscritti ad Azzurra Libertà, che è stata conosciuta da Berlusconi e avrebbe frequentato per un periodo Berlusconi, ma è vero o no? Guarda, noi andavamo a Villa Gernetto per fare politica, abbiamo fatto 4 incontri col presidente Berlusconi e il nostro scopo era sempre solo quello di confrontarci col presidente. E invece... poi il presidente Berlusconi nel mentre faceva altro, francamente questo non lo so dire. Lo sai perfettamente. Cioè Berlusconi ti incontrava e rimorchiava, diciamo la verità. Ma guardate, non stavo perennemente appresso sotto la gonnella di Berlusconi come la stragrande maggioranza degli esponenti di Forza Italia, sinceramente. Quindi no, ho capito, d'accordo, so, però questo, quello non, vabbè, so, ma non puoi questo. Dire non lo so, è una di voi o no? Cioè non è una cosa stramba, cioè non è una domanda. Chiedetelo al giornalista che ha scritto il pezzo, non l'ho detto io, quella è un'indiscrezione. Andrea, però non prendiamoci in giro. Cioè che cosa è successo? Là. Berlusconi ha incontrato e invece di pensare a fare politica, cosa che oggettivamente di cui non gliene fotte nulla, ha pensato di rimorchiare una donna che è una vostra, diciamo, iscritta, o no? questo è quello che scrivono. Io non guarda, se vuoi ti dico una cosa, né confermo né smentisco. Vabbè, Parenzo, ma scusi, sono stato silente perché non mi voglio arrabbiare. Sono stato silente perché non volevo arrabbiare. Ora, che l'ottimo Andrea Zappacosta, ma è simpaticissimo, ex falchetto di Forza Italia. Sì. Falcucci, non lo so. Venga a farci il TikTok del politicamente corretto dell'omino della Prima Repubblica che parla come un Arnaldo Forlani qualunque, questo. Virgola, amico mio, virgola, no. Lo so che i comunisti come te non conoscono il politicamente corretto. Ma quali comunisti? Dire, ma non mi puoi fare lo statista, Zappacosta. Ma sembra una dichiarazione. Ma neanche Pomicino parla così. Neanche Paolo, che è ottimo, Paolo Pomicino. Ho detto neppure lui, ma neppure i politici della Prima Repubblica. Pomicino che apparenza. Però scusami, Andrea, ma non c'è dubbio. Andrea, ma perché avete messo in discussione la vita privata di Berlusconi? Messo in discussione. Parenzo fa il grosso in radio, poi mi vede al Met, al ristorante, neanche saluta, capito? E manco ti conosco, dove? Al Met? Però mi fa le interviste, come mai allora? Non ti conosco di faccia, magari non ti... Dov'è il Met? Andiamo oltre. Ma dov'è il Met? Andiamo oltre. Ma come? Da fare il brunch, Parenzo, non ti ricordi? Vabbè ragazzi, ma chi se ne frega? Se non ti ho riconosciuto ti chiedo scusa, ma questa è la sinistra italiana, il comunista a Roma Nord. Ma questo è anche un classico. Andrea, il falchetto si è offeso perché non l'ho salutato, ma non l'avrò riconosciuto lì in mezzo a tutti i due. Ma no, io francamente saluto persino persone come te, pensa un po', quindi figurati. Vabbè, infatti voi comunisti siete buonissimi con tutti, per cui è chiaro che mi devi salutare, no? Comunque dacci sta notizia, vai con Renzi o no, perché qua a sto punto se mi saluti o non mi saluti, dico non fare il grosso in trasmissione, poi quando mi vedi dal vivo te la fai sotto, insomma. Vabbè ragazzi, questo mi pare un po' eccessivo. Io voglio capire una cosa, perché cosa c'è di strano nella vita privata di Berlusconi che già non sapevate, scusami? Ma non è problema di vita privata. Vabbè, sì, quello privata. Avete scritto. Questo ha scritto oggi il Corriere della Sera. Interessi personali può voler dire anche interessi aziendali, interessi giudiziari. Adesso lo scoprite. Vuol dire vita privata. Ma nel momento in ma cui siete uno, forti, vent'anni di berlusconismo cui... andate fuori adesso con questa roba. L'antidemocratico comunista Parenzo, se mi fa parlare, si riesce a fare un discorso logico dimmi. Siete soltanto una barzelletta vivente? Ok. Barzelletta vivente. Nel senso questo è il concetto. Ha parlato Harvard. Ha parlato l'Harvard della politica, su forza. Tu sei laureato Parenzo, che cosa? Forza, dai. Ma che c'entra laurea? Parenzo. Dai. Parenzo, in cosa sei laureato? Andrea, dottor Zappacosta, avanti, forza. Ci faccia la lezione politica, forza. Zappacosta. Io più a te che tu a me. Faccia la lezione politica. Siamo tutti in attesa di sapere in quale partito andrà e perché ha abbandonato Forza Italia. Oh, Zappacosta. Avanti. Notizia del giorno. Notizia secolare. Da mamma o da papà questa notizia? Da mamma o da papà l'hai presa questa notizia? Mi vuoi rispondere? Guarda come cade. Scivola subito, guarda come scivola subito sul triviale. Zappacosta. Guarda come scivola su una buccia di banana. Ma il buon Zappacosta. Un comunista come te che non fa nemmeno parlare. Che ma ancora comunista? Ancora di questa storia ciò. Del comunista? Ma tu sai cosa ho votato in vita mia o no? Ma lo sai cosa ho votato? Pensa a laurearti. Ma tu sai cosa ho votato in vita mia? Come Sgarbi, capra. Ma lo sai cosa ho votato in vita mia? No? Sgarbi, ma non lo so, francamente non mi sono mai informato della storia. E allora di che parli, zappa minchia? Non ho mica capito. Intervista Zappacosta. Silenzio un attimo, bloccate il traffico. In mezzo alla strada parla Zappacosta. Poi però quando fai silenzio per cortesia, sta parlando Zappacosta. Andrea Zappacosta è diventato oggi famoso grazie alla Zanzara, ci dirà qual è il suo futuro politico. Silenzio, parla Zappacosta. Ragazzi, adesso metto ordine, basta, avete scocciato. Allora Andrea, io voglio capire una cosa, cosa c'è di strano? Cioè, avete scoperto adesso che Berlusconi si paga i cazzi suoi? Perché questo avete detto in pratica, no? Ma io non voglio parlare di politica con voi due. Non rispondo più alle vostre domande, perché siete due buffoni, siete due pagliacci, rubate i soldi. voi rubate col vostro pseudo mestiere. Rubiamo? Senti, Zappacosta, adesso guarda, sono stato calmo fino adesso. Adesso ti mando veramente a fare in culo. Richiamami questo stronzo, dai. Richiamami questo coglione imbecille. Adesso sono stato calmo fino a questo punto. Adesso veramente lo mando a fare in culo, eh. Cosa pazzesca. Cioè, richiamami questo coglione di Andrea Zappacosta, dai. Dai, Falchetto che è Azzurra Libertà, che hanno scoperto adesso che valutiamo che dai, adesso sono stato calmo fino adesso, sono veramente lo mando a fare in culo, eh. Dai, forza. Mica risponde questo. Non risponde. Wind. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria di Arnaldo Forlani. Attendere, vai, prego. A fare in culo, va. Coglione. No, sono stato stranamente calmo, sì, capito? Sì, no, ma è strano, infatti, non capivo perché, cioè, delle cose incredibili. Cioè, sono stato stranamente calmo perché ho lasciato parlare, dove litigano loro. Però, poi a un certo punto gli ho cominciato a fare di nuovo una domanda, facendo finta che sia un politico, naturalmente, sia Zappacosta, no? Cioè, non un signore che ha fatto un movimento presentato. Voglio ricapitolare per gli ascoltatori. Sì, cioè, ecco, la signora Santanchè ha presentato questi signori che sono stati soprannominati Falchetti. Bravi, Falchetti. Ragazzi, per carità. Ah, giovani. Sì, per carità. Sì, perché... E hanno formato un movimento di lecchinaggio a Berlusconi. Che si chiama, diciamo la verità come stanno, che no, si chiama Azzurra Libertà. Molto benissimo. Bene. Di adesso chi del berlusconismo. Dopo diversi anni di totale anonimato, questi signori hanno detto: rompiamo con Berlusconi perché pensa ai cazzi suoi. Oh, e ha una vita privata. Com'era vita privata un po' in trambusto, cioè. Sì, poi hanno raccontato, perché loro l'hanno raccontato chiaramente, inutile che ci vuole far credere, non è che siamo nati ieri, Zappacosta, che una ragazza è stata praticamente rimorchiata da Berlusconi, una delle loro adette. Sì, questa è la ragione. Dice: no, non lo so, ma che è che non sai, a chi l'ha raccontato? L'hai raccontato tu a quello là? No, ma ti pare che siamo nati ieri? Dai, su, ragazzi. Parenzo, ce l'avrai anche piccolo, ma mi fai arrapare. Pubblicità. La Zanzara. Cruciacio, stai con inquilina, che io vado in cucina con la cuffietta ovviamente per lavare i piatti, tu stai a fare cosa con quella cuffietta e lei mi attacca il mostro, mi attacca il pippone, io gli vorrei dire sta zitta che devo ascoltare la Zanzara! Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Vabbè, dai, un poveraccio, dai, chi se ne frega, un poveraccio, un coglione, dai. Andrea Zappacosta, dai. Dal nulla sei venuto e nel nulla tornerai. Polvere eri e polvere sarai. Adesso mi pare che un po' eccessivo, poverino. Mi stava anche simpatico. Ma sì, anche a me, ma se deve fare il coglione. Adesso mi hai visto al Met e non mi hai salutato. Ma poi che cos'è il Met? Ma sono ma a fare un posto ostri di Roma. Bruno da di Latina, dai, Bruno. Bruno, non c'è. Maurizio da Milano, vai. Pronto? Dimmi. Oh, intanto vi devo dire che vi ringrazio perché questa sera mi avete fatto divertire come dei pari. Siete davvero due grandissimi artisti. Dai, dai, vai avanti, vai avanti. No, davvero. Ascolta, mi rendo conto che forse ciò che voglio dire adesso diventa fuori luogo oppure in ritardo. Vai, dimmi. Quando ho chiamato era soltanto per lamentarmi anch'io, come hanno già fatto tanti, per quanto riguarda questa possibile decisione di voler, tra virgolette, confiscare le case, o le seconde case o le terze case. Volete. Mi fa specie il fatto che ci sia lì di fianco a te il signor Davide Parenzo. Non è di fianco, ma non essere... Vabbè, dove ti trovi? Ti chiedo scusa. Sì. Lasciami terminare però, Davide. Prego, davvero. prego. No, giusto. Dopo mi interrompi. Sì, sì. No, no, non voglio interrompere, giusto. Solo Zappacosta interrompe. No, beh, ti devo dire anche che peraltro io sono di destra, ma mi vergogno che ci sia una persona come Zappacosta in giro. Ti devo dire, francamente, no, ma chi è sto Zappacosta? Io non sapevo nemmeno che fosse in piedi ancora questa associazione, questa... Ma nessuno, neanche lui lo sapeva. Mi vergogno veramente di aver sentito una roba del genere. Mi avete fatto divertire su tantissime cose. Peraltro, volevo dirvi che anch'io quando sento la pubblicità di quella Isabella Federicotti mi tocco i coglioni, ma no, mi stringo anche forte. Mi viene una paura incredibile. Ma questo non si può dire. Ma questo si può, si deve dire. No, non si deve dire. Si deve lo dire. So, perché è davvero uno spot importante, serio, pubblicità progresso, come la definisci tu e quant'altro, però porca puttana, è inquietante quella voce, veramente, dà una paura incredibile. Se sono in macchina con le mie bambine, io devo assolutamente immediatamente cambiare canale, e questo mi dispiace. Comunque, tornando non ho capito perché devi cambiare canale, non ho capito. Ma perché cazzo sentire quella voce lì è inquietante, sembra veramente una voce dell'horror. Un ma film, quale voce? Ma quale voce? Della Federicotti, porca puttana. Ah, la Federicotti, sei ancora rimasto alla Federicotti, sì. Beh, adesso, voglio dire, ci sono tante cose per cui cambiare magari frequenza, proprio la voce, da vedi, però Parenzo, cioè, un cazzo non lo disturba. Cioè, un vaffanculo non lo disturba, un litigio non lo disturba. Sì, è pazzesco. Lo disturba, ma è questo, perché la volgarità, adesso non dico che è volgare, eccetera, il turpilogo, eccetera, non è per forza catalogabile come parolaccia. C'è anche un suono che non ti piace, una cosa fastidiosa, ed oggettivamente quella roba lì è una roba fastidiosa. È meglio, è molto meglio la parodia del nostro ascoltatore. Dai, Maurizio, allora? Allora, tornando a noi, io ho 52 anni, mi sono fatto un culo nella vita pazzesco. Mi sono mantenuto agli studi andando a scaricare il pesce a Milano di notte, pagato in nero, chiaramente. E tutto ciò che ho avuto dalla vita me lo sono guadagnato. Non ho mai rubato una lira a nessuno. Non voglio sembrarti patetico, però l'idea è il fatto che io mi stia comprando delle case pian pianino con il mio lavoro e con mille sacrifici per poter pensare al futuro, sì, delle mie bambine, e che quindi io possa avere un paio di appartamenti liberi e possa arrivare qualcuno che pensa di essere impegnato nel volontariato, sì, possa sequestrarmeli, perché di sequestro si tratta alla fine, così corrispondendo una... Ma certo, è una follia, ma è chiaro, è una follia. È proprio pazzesco, e mi stupisce, non ci credo, credo che sia un piacevolissimo, intelligentissimo gioco delle parti, che il signor... No, Parenzo crede davvero che in alcuni casi lo Stato possa, pagando un affitto, requisire le case sfitte. Pagando un affitto, hai detto, bravissimo, per un periodo determinato. Lo vedi che non è un gioco delle parti, è vero, è così. No, ma te l'ho detto fin da subito, certo. Davide, ma se tu ti fossi comprato un appartamento, non so se ne hai più di uno, se non ne hai neanche uno. No, io non ne ho neanche uno personalmente. Personalmente, intestato, non ne ho nessuno, neanche uno. Di mia proprietà, niente ho. Bene, ok, avrei fatto altre scelte nella vita, però voglio dire, rispettabilissima, però ti voglio dire una cosa, ma lo Stato mi vuole prendere un appartamento, ma sarò almeno libero di decidere io quale chiamare da affitto? No, neanche questo. No, ma è una follia, dai, cioè, ma è una follia. Ma non esiste. Adesso. Va bene, Maurizio, grazie, ciao. Allora, andiamo a Roma, Serena, vai. Sultani, buonasera. Ciao, dimmi. Allora, mi volevo aggiungere alla discussione pelo sì, pelo no. Finalmente andiamo su cose serie, dai, forza. Finalmente andiamo su argomenti seri, dai. Io, diciamo, mi pongo sul piedistallo in quanto non solo sono donna, ma sono anche lesbica. Bene, una lesbica, la signora Serena. Benissimo, vedi come è contento, cioè, cambia subito il tono della voce. No, perché Serena, il mondo del lesbismo deve essere veramente indagato dalla Zanzara. È un mondo che è rimasto lontano. Esatto, perché ascolta molto poco. Sì, adesso infatti hai ragione, Serena. Dovresti veramente poi introdurci in questo mondo, cioè che il mondo del lesbismo, qual è stata la sua evoluzione nel tempo, come funziona adesso, dove sono i locali dove vanno a rimorchiare le lesbiche, perché è un mondo meraviglioso quello del lesbismo. Serena, da quanto tempo tu sei lesbica? Ci sono molti settori a Roma. Molti settori, che vuol dire settori? Sì. Settori, cioè tipologie di lesbiche, per cui in base al tipo che ti piace puoi andare in un locale piuttosto che in un altro. Interessante, diciamo. Questo, per esempio? Allora c'è la lesbica intellettuale. Sì. Che trovi per librerie, per il Pigneto, sai, per zone di Roma di lì c'è il lesbismo intellettuale, la luxuria, diciamo, che poi in realtà non è manco lesbica, ma insomma quello che anzi ti piacciono gli uomini, per cui... cioè là c'è la lesbica, i locali delle lesbiche intellettuali, no? Esatto. Poi invece ci sono i locali delle lesbiche camion, che diciamo sono quelli un po' più dichiarati. Come sono? Camion? Sì, le lesbiche, quelle un po' più maschili, le camioniste. Bella, bella, lesbica camion, cioè quelle proprio rudi, quelle rudi, quelle con i capelli corti. Esatto. Cioè quelle esatto. che fanno la parte dei maschi, insomma, no? Esatto. Cioè, tu e a proposito, poi, e poi dimmi, poi? Infine nel mondo sportivo, lì se tu ne cerchi una vai a fare qualsiasi tipo di sport e le trovi, insomma. Cioè? Tipo calcetto, basket. Ah, pieno, ho capito, pieno. Cioè le lesbiche sportive, stai dicendo. Esatto. Vabbè, però non hanno dei locali di riferimento queste qua. No, però organizzano in continuazione i tornei, eccetera, che sono certo. in realtà fondamentalmente tutta una scusa per poi incontrarsi. Per poi incontrarsi. Infatti adesso sono al calcetto. Tu stai giocando a calcetto? Scusi, signora Serena, signora Serena. Signora Serena, lei conosce Zappacosta? No. Conosce il signor... Beh, è normale strano. Che lo conosca, il signor Zappacosta. Conosce il significato della parola falchetto? Esatto. No. No, mi manca, mi conosce manca. Cosa significa azzurra libertà? No, no, giustamente no. No. Lei è lesbica. Sa pensa, che hanno lasciato Forza Italia? Lei sa che hanno lasciato Forza Italia? Questi... Sì, adesso me lo ricordo vagamente. Scusi, signora Serena, io voglio capire una cosa. Sì. Allora, lei vuole parlare della diatriba che c'è in corso, che è in realtà una diatriba antica, tra pelo sì e pelo no. Ecco, nel mondo del esatto. lesbismo, come ci si pone di fronte a questa questione fondamentale per il vivere quotidiano? Allora, mentre dico che secondo me assolutamente il pelo non si concepisce, perché è come se tu mangi la pasta e trovi un capello, a te piace o no? No. Beh, no, ma è diversa la rimando la cosa. Indietro. Il paragone, no. il paragone però mi sembra azzardato, cara Serena, cioè tu stai dicendo che non mi sembra. Leccare una patata, diciamo, no? Leccare, come la chiami sì. tu? Leccare una figa, insomma, no? Beh, eccola. Sì, no, sì. se l'ha capito, non ce l'ha no, capito. Ma per capire, leccare l'organo genitale diciamo femminile. Con il lingua, se così a Parenzo piace sì, di più. Esatto, diciamo, leccare l'organo genitale femminile, dove c'è un pelo è la stessa cosa che trovare un capello all'interno di un piatto di pasta. Sì, esatto. Perlomeno nella parte bassa, poi se nella parte alta vogliamo avere un po' di pelo per arredamento, diciamo, lì va bene. Ma nella parte vabbè, bassa questa qua, voglio dire, no. questa qua, d'accordo, questa è la tua preferenza, ma voglio dire, nel mondo lesbico come ci si divide su questa cosa? Nel mondo lesbico dipende dalla tipologia di donne, comunque in generale appena no. Pelo, in generale no, prevale il no pelo, diciamo, no? Esatto, esatto. Ma nemmeno la lesbica camion, quella che hai descritto prima? No, nemmeno la lesbica camion. Nemmeno la lesbica camion. Tu sei fidanzata, Serena? Esatto. Anzi, ti devo dire che più che altro quelle le libraie, diciamo, preferiscono. Le libraie? Anche questa è un'altra categoria, però. Le lesbiche libraie, chi sono? Scusa, è curiosa questa cosa. Perché è curioso? No, le lesbiche libraie. No, ma che mestiere sì, devono sì. fare? Non che vuol dire la lesbica? Ah, tu dici quelle, l'intellettuale. Diciamo che vanno per biblioteche, sì. E che significa quelle che vanno per biblioteche? Intellettuali. Ah, quelle intellettuali. E sono più nature, diciamo. Ah, quelle invece sono un po' più nature. Quelle sì. più nature. Beh, cara Serena, qual è il tuo locale di riferimento a Roma del mondo lesbico? Diciamo no, ultimamente frequento la zona del Pigneto. E che locale c'è al Pigneto? Tuba. Il Tuba. Pasolini. Il Tuba al Pigneto, ragazzi, eh? Segnatevi sì, questa cosa. Esatto. Ma ci sono un sacco di etero là in realtà, anche al Tuba al Pigneto. Ma c'è di tutto, ma il bello è anche quello. Ma sì, ma certo, il pansessualismo, non esiste più il sesso, non esiste più una distinzione. Esatto. Parenzo, abituati, non esiste no, ma più. Ma abituati, perché? Ma voi potete, però, scusami, voi potete fare quello che volete. Cioè, mi prendi come... Fate quello che volete. Tu vuoi che la tua fidanzata, se ce n'hai una, venga anche ma posseduta moltissimo. Contemporaneamente da altri. Benissimo. Non però, beh, vedi, ride anche la signora perché un po' no, di stranezza comunque c'è. Da questo punto di vista, Parenzo, la penso più come te. Cioè, ecco, tu sei una lesbica tradizionalista, diciamo, no? Esatto, sono stata fidanzata 6 anni e mezzo. E adesso. Non hai mai tradito? 6 anni e mezzo con una donna, non hai no. mai tradito. Scusa, ma no, come fate? Sì, come sì. fate sesso tra di voi? Con Gigi, con anche con oggetti? Con... Anche. Beh, anche. In 6 anni alla fine qualcosa lo tormenti, insomma, diciamo. Beh, sì, chi è attivo? Tutte e due, attivo e passivo, diciamo? Parenzo, vedi come entro nel dettaglio. Sì, no, ma vabbè, sì, certo. L'amore del dettaglio. Come, scusa? Che mi hai detto? Che già possiamo fare cose limitate, se poi ti metti pure a fare l'attivo e il passivo, addio, non fa più niente. Brava, brava. Cara Serena, hai mai conosciuto in vita tua il pisello? Ecco, sì, questa domanda finale. Ora non è che lo disdegno. Ah, vabbè, ma allora sei una lesbica finta, scusami, non sei una lesbica. No, lesbica finta no, perché non mi fidanzerei mai con un uomo, però alla fine diciamo, prendere il pisello, cioè una cosa meccanica, quindi che sia, cioè, succede ogni tanto, ogni tanto pisello poco cambia, ogni tanto su, beh, oddio, tra oggetto e pisello qualche differenza c'è. Cara Serena, grazie, beh, di questo excursus volevo nel mondo. Solo dire un'ultima cosa a Parenzo. Sentiamo. Dillo. Cara, eccoci qua. Che è da quando ho 22 anni che sento la zanzara, quindi non ti preoccupare che si cresce bene con la zanzara. E mi manca il tuo chicchi chicco curucurucuru curu curu qua qua. Ma se vuoi lo facciamo a comando. Lo facciamo a comando con un gettone. Datemi la base, però. Datemi la base sotto. Con un gettone. Al rientro dalla pubblicità. Ciao Serena. Sì, ciao, okay, ciao, sì, ciao, sì. Ciao. Ciao stronzi. Oggi mi sono laureato e dedicato la mia tesi alla zanzara. Zanzara al potere. La zanzara. Caro Cruciani, per quanto riguarda il divieto della depilazione della patata nella cultura islamica, ahimè ti sbagli. Viva Dubai e ti posso garantire che questa pratica disumana è in vigore anche qui. Possiamo dichiarare la tua papelosa animale in via d'estinzione. Allora, è con grande piacere, caro David... Caro David, che ti presento un personaggio che ha un nome e un cognome, naturalmente. Si chiama Max di nome, Gaetano di cognome. Dunque non ti confondere, Max di nome, Gaetano di cognome. D'accordo, d'accordo. Cioè Gaetano, che sembra un nome, in realtà è un cognome. Come Rino Gaetano, no? Che dicono, sì, mi, certo, assomiglia. Ma stai scherzando. Il quale possiamo definirlo fruttariano. Fruttariano. Dunque, di conseguenza, animalista. E anche attivista del Movimento 5 Stelle, non a tempo perso, ma insomma, come, se vogliamo aggiungere anche questa caratteristica. Caro Max, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti e due. Come stai? Bene, bene, tu come stai? Beh, combatto. Ma sai, Parenzo, quando abbiamo sentito, non dico per radio, ma sai con chi era Max una volta? Con chi era? Era con Mandarà, quando hanno fatto una specie con di... Con chi, scusami? Con il signor Salvo Mandarà. Quando hanno fatto... scusa, già... Mandarà, il tuo amico Mandarà. Sì, no, già oggi abbiamo avuto un signore che è un Zappacosta che... Ma che c'entra Zappacosta con Mandarà? No, dico, già oggi abbiamo avuto un Falchetto. No, ma che c'entra? L'abbiamo c'entra. Vabbè, no, confuso, più adesso anche ridere, Mandarà. Sei confuso come al solito, dai. Sei confuso. Lui no, è... dico, ma no, tutti questi personaggi minori, no, questo intendevo. Cioè, lui è un personaggio, è un grande personaggio. Chi Mandarà è un personaggio della serie A. Ah, Mandarà, stai dicendo. Davide superiore, invece, no, giusto? No, per carità, anzi, allora l'abbiamo sentito perché anche lui fa parte di quel gruppo di persone che andavano a protestare al Bilderberg, di sì, fronte, certo, al Bilderberg. No. C'era anche il signor Max Gaetano. Sì. Però Max, sì, Max Gaetano, che cosa vuol dire? Chissà quelli del Bilderberg, dice, c'è il signor Max Gaetano fuori che protesta. Oh, terrible. Sì. Veramente c'erano anche giornalisti del The Guardian, no? Conosci The Guardian? Mai sentito The Guardian? Nominare? Sì, sì, sì, no, ho sentito nominare. Cioè. Senti, ah, Max. No, ma immaginavo quelli dentro. Sai che secondo me lui che ci odia, secondo me, non ci sopporta, rispetta più me di te. Sì, cioè, secondo me alla fine rispetta più Giuseppe Cruciani che David Parenzo. Questa essere. È la mia impressione. Max, queste sono cose riservate che non ti posso dire. Beh, riservate, adesso non esageriamo. Senti una cosa, ma fruttariano cosa chimiche. Vuol dire fruttariano? Ecco, fruttariano, sì, vuol dire che togli anche i cadaveri vegetali, anche i semi, che sono uova fecondate. Questo dal punto di vista scientifico sono banalità che Davide dovrebbe conoscere. Cioè, non ho capito, diciamo, che cos'è? No? Cioè, le uova sono? Cioè i semi che sono? Quando Davide si sfonda di pane, pasta, pizza, sta, sì, mangiando il grano, che è un seme, che, sì, è un cibo per galline. Cioè, i granivori mangiano i semi, no, Davide? Sei d'accordo? Sì, non sono. Dunque, sarebbero embrioni fecondati i semi? Sì, molto più di un uovo che esce da una gallina. Cioè, io se guardo un seme devo dire, cioè, devo pensare che è un embrione. A livello biochimico, sì. Così. Cioè, come gli embrioni di una donna incinta? Sì. No, ma dai, Max, non ci posso credere che tu pensi che un seme. Lascialo pensare, tranquillo. Se vai in facoltà, sono banalità. Come non sono banalità? Non sono banalità. Come il fatto che hanno 1 milione di tossine per seme. La pianta non è scema, è suo figlio, ci mette fino a 1 milione di tossine. Si chiamano fitotossine metaboliche. Cioè, la pianta è un essere vivente, secondo te? No, non è che secondo me, già Darwin aveva ipotizzato che avessero il cervello nella radice, negli apici radicali. E dunque, secondo te, una pianta è uguale a Parenzo, per esempio? Cioè ha lo stesso valore di Parenzo una pianta? Non offendiamo le piante che esistono da miliardi di anni, giusto, e che sono il 99.5% della biomassa. C'ha ragione, su questo c'ha ragione. Cioè, secondo te, se uno vuole essere veramente coerente, cioè il vegetarianesimo è una stupidaggine, cioè una roba da radical chic. Ma può essere una transizione, ma il vegetarianismo e il veganismo non siamo certo una mucca, che siamo erbivori, no? Sono cose... di transizione. Cioè, se uno vuole essere veramente coerente, quando uno dice l'essere umano è uguale a una pianta, uguale, sono tutti uguali, no? Gli esseri umani, dovrebbe essere come te, cioè dovrebbe essere fruttariano. Certo, anche perché la parola pianta non vuol dire nulla, perché Aristotele disse che siccome la schiacciavi con la pianta del piede è una pianta, ma tutti gli esseri viventi sono dotati di quello che chiamano. Cioè, scusa, tu in un prato non ci vai, non lo colpesti un prato? No, vabbè, quelle sono cose estremiste. A parte che l'erba è elastica, è fatta apposta per essere calpestata. Ma se tu dici che ha l'anima anche un prato, non lo dovresti calpestare? È fatta apposta per essere calpestata, perché è elastica, e questo calpestio le dà. E quella uccide una pianta che tu non puoi toccare perché muore. Parenzo, cioè, come al solito, al radio ti si sovrappone. Vabbè, cosa dobbiamo fare? No, dimmi, Max, qual è una pianta che tu non uccidi, cioè non colpisci, perché non fai morire perché la consideri uguale all'uomo? Sono curioso. No, vabbè, tutte le piante, l'insalata, qualsiasi pianta. Cioè, se io mangio l'insalata ammazzo qualcosa, dici? Guarda, lo dice la neurobiologia vegetale, una branca. Cioè, io che mangio l'insalata spesso e sto commettendo un omicidio mentre mangio l'insalata. Vabbè, solo che a livello di impatto ambientale è inferiore, no? Perché come Parenzo saprà, quando mangi Parenzo, la carne, un chilo di carne, ma se ne fotte personalmente aspetta, di queste cose. Sono d'accordo, dillo a tutto il mondo ambientalista che sono 15.000 litri di acqua, niente, un chilo di carne, sono 15.000 litri di ma acqua. Ma ho capito, io continuerò a mangiare carne, poca ne mangio, ma continuerò a mangiarla, come rompete le balle. Dicono tutti così, poca. Vabbè. Caro Max Gaetano, prosciutto e carne, dimmi. Io, scusami se ti do questa grande delusione. Sentiamo. Ma continuerò a mangiare carne e anche pesce più della carne, per la verità. E ti chiedo peggio. Scusa, ma stasera vado a casa e c'è un branzino al sale, ad esempio. Ecco, io lo mangio e me ne fotto. Branzino... tutti, c'hai spaventati tutti con ma non cosa. Me ne frega niente di spaventarti, voglio mangiare in pace, bermi un bicchiere di vino e mangiarmi il branzino al sale senza uno che mi rompa i coglioni. Poi dopo puoi dire quello che ti pare, va benissimo. Siamo in radio, siamo in pubblico, dovrai dire. Appunto. Che 105 metri quadrati di foresta vanno via con un chilo di carne. Hai paura? Invece di il pesce? Diciamo il pesce? Il pesce non fa un altro tipo di danno ambientale, dato che si stanno depauperando i mari. Grazie. Ma secondo te, pescare un branzino, eccetera, eccetera, è un omicidio? È come se Parenzo lo soffocasse, dato che quando lo tiri fuori il pesce soffoca. Non può essere la stessa cosa. È certo che lo soffi, che lo uccidi. Beh, non offendiamo i pesci paragonandoli a Parenzo. Sono andato a pescare un sacco di volte. Cioè, secondo te, io con quello che dico sulla caccia, sulle cose, che cosa merito nella vita? Cioè, che cosa... So amici animalisti texani che gli piacerebbe che tu fossi residente in Texas, no? Dato che sai cosa c'è in Texas. La pena di morte. Cioè, la sedia elettrica c'è in Texas, amico mio. Cioè, veramente tu in Texas ce la puntura. Mangi carne, Giuseppe, non per quello, perché propagandi il carnismo, che è un'istigazione No, non propagandi il carnismo. Scusami, sono le 20:40. Scusami, non mi voglio arrabbiare, oggi me l'ero riproposto. L'avevo anche promesso a casa. Propagandare il carnismo. Il carnismo. No, ti assicuro che io, tra l'altro, non propagando il carnismo. Cioè, sono a favore di mangiare la carne, mangiare il pesce, eccetera, e anche della caccia, e anche di cose che dei circhi che tu odierai sicuramente. Circo, però non faccio propaganda. Cioè, non faccio propaganda. Beh, quando te ne vieni con la carne del macellaio in diretta streaming, quella è un'altra cosa. Vai? Quella è una controcampagna. Le famose provocazioni? No, è una controcampagna. Guarda, che la provocazione la fa la Lab, che vogliono eliminare il coniglio dalla tavola degli italiani. Io faccio una controinformazione e fanno bene. Invece, per me fanno male. Infatti, per dimostrare che fanno male, mi mangio il coniglio in diretta e faccio succedere un casino. Come ho fatto? Bene, ma esistono gente che mangia gli uomini. Perché non vieni con un uomo tagliato? No, non dirmi che mangiare il coniglio è come mangiare un uomo. Non lo puoi dire, dai. Ma dimmi tu dove è la differenza. Animale vuol dire che ha lo spirito, il soffio vitale vuol dire. Ma tu, fruttariano, allora, che frutta mangi? Perché non tutta si può mangiare allora, tutta la frutta? Sì, non tutta la frutta si mangia. Tieni conto che Parenzo non lo saprà, ma esistono 240.000 tipi di frutta al mondo. Ma non è solo Parenzo. Che cos'è che si può mangiare secondo la tua filosofia? c'è solo quel 2% che è il commercio, ma di quel 2% che è commestibile ce n'è un tipo che è cancerogeno 31 volte più della carne, ovvero la frutta acida, detta frutta killer, cioè? In particolare l'arancia, che Parenzo sicuramente, cioè, l'arancia provoca il cancro, spremuta d'arancia spesso, sì, me la faccio. Hanno 31 volte più poliammine, la cadaverina, la putrescina, 31 cioè, volte più della carne che l'OMS. Noi siamo abituati a svegliarci, a prenderci una bella spremuta di arancia, signor Max Gaetano, per carità, magari ha ragione lui, ci sta dicendo qui che 31 volte più cancerogena della carne. Metti che Parenzo ha un tumorino piccolino che non gli rompe il cazzo, cioè, metti che magari capiti a te, mettiamo così come esempio, metti che ti capiti a te, insomma, Parenzo, parlami solo perché il radio sei un metti che ti capiti a te, ma fallo parlare prima, dai, allora 31 volte, hanno cadaverina putrescina, sono cancerocinetici, si dice. E questa è fonte PubMed, che gli amici di Parenzo Medici scattano sugli attenti se dici PubMed. Una roba incredibile, dai. Senti, ma tu a che gruppo, di che gruppo fai parte? Gruppo degli anti-nazi cruciani. Cioè, capito, cioè, questo fa, cioè, c'è un gruppo... Un gruppo. Sai, a parte Parenzo, chi fa ma parte quanto mi odia, quanto mi odiano i vegani? Dimmi la verità, quanto mi odiano, Max? Da quando hai fatto la roba del coniglio. Bellissimo, un odio profondo. Ma perché sei attivista 5 Stelle? Tutto questi 5 Stelle che c'entrano nel partito dove... 5 Stelle è l'unico movimento mondo che propaganda Cowspiracy, che Parenzo saprà essere il più importante documentario sull'impatto ambientale. Assolutamente, carne. Non guardo altro io. Guarda, tra l'altro abbiamo mandato al Parlamento Europeo, alla Camera, lo mandato molto sì, no, quello è vero. I 5 Stelle sono praticamente un movimento pro-vegano, pro-vegan. È un movimento ambientalista, nel momento in cui vedi Cospirito, se sei ambientalista devi per forza. Quindi vegan. Grillo è non mangia la carne. No, adesso guarda lo sbugiardo. Boh, girano voci che si stia avvicinando. Casaleggio come Silvio è vegetariano. Cioè, sei sicuro? Perché Casaleggio è vegetariano. Abbiamo parlato a lungo di questa cosa, che non so se ti faccia piacere, il fatto di il fratello Silvio che il tuo fratello Silvio, praticamente, no? Dovrei chiamare... sono anche milanista, quindi non è che posso odiare. Cioè, Silvio, hai due cose, no? Insieme a Berlusconi, praticamente. Due cose insieme sì, a Berlusconi. Sì, ma, cioè, ma chi ha 80 anni hai qualcosa contro che lui possa togliere la carne a 80 anni? No, ma per carità, mi sembra una roba un po' penosa, devo dire. Vabbè, la verità. Scusa, penosa. Ho tolto l'eroina l'altro ieri, perché non dovrebbe Silvio togliere la carne oggi? Ma scusa, tu poi naturalmente crederai anche alle scie chimiche e sì, tutto il resto, no? Beh, il generale Mini ha parlato di geoingegneria, che fai? Tu ne sai più del generale Mini? No, ma tu dici, sei a favore, se pensi che alle scie chimiche, cioè ci credi a questa cosa qua? Da quando ho sentito il generale Mini parlare di geoingegneria, qualche dubbio me lo sono chiesto, posto, no? Ti ho chiesto, esistono le scie chimiche che danneggiano l'ambiente? Sì, te l'ha detto, sì, sì, certo. Sì o no, sì. Sì, sì, dato che... Sì. Cosa c'è di altro? Non solo generale Mini, ma anche... Ma il generale Mini non ha detto... I russi hanno fatto che notorio che le Olimpiadi di Pechino hanno usato... Ma tu potresti stare con una non vegetariana, non vegana, scusa, non fruttariana? Difficile, no, dato molto che cambia l'odore della patata. Ah, cambia l'odore veramente? Sì, sì, passa dall'acido all'alcalino. So che voi sarete abituati alle carlatiche acida, quindi per voi è un piacere, ma sappiate che questo l'acido... Un altro lord inglese amico tuo. No, qua. Max, ci stai dicendo che l'odore della figa di una vegetariana, di una fruttariana, è nettamente più denso, com'è? Più dolce, non è acido. Il acido è alcalino, quindi diventa sì, anche più dolce. Più dolce. Ma tu non hai mai veramente leccato... Ma su una vegetariana si può dare, ma non ho notato, francamente non ho notato la differenza, Max. No, vegetariana non ho notato la differenza, ti posso... Ma una vegana fruttariana non l'hai mai leccata? Sì, può darsi di sì, ma non me lo ricordo, non gli ho chiesto. Non ci credo, dai, non dire balle. Ma comunque ti assicuro che, ragazzi, qui stiamo sviando dal problema principale, che è uno solo. Lo fanno meglio o no i vegani, i fruttariani? Sì. Lo fanno talmente meglio che c'è un vegan gigolò, quasi fruttariano, che ti vuole sfidare in una gara di durata. Verrà intervistato dal tuo amico Lambrenedetto, anche lui aderente alla setta dei nazi cruciani. Che no? Sta gente, anche il tuo amichetto Paragone è un nazi cruciano. Allora, eh? Il vegan gigolo. Io non sono amico di Paragone né di Lambrenedetto, sono persone che conosco. Punto Paragone basta. È vegano. Non vegan gigolo. Vegan gigolo. Antonio Iannantuono. Lui non si vergogna, non si nasconde. Antonio Iannantuono è un vegan gigolo. Ma chi è sta gente, ragazzi miei? Ma di che cosa state parlando? Ma chi sono queste persone? Non riesco a googolarle da quanto sono ignorante. Non esistono neanche nella rete. È un vegan gigolò. Dammi il numero, come si chiama questo qua? Antonio Iannantuono. Antonio, ma chi è sta gente? È importante perché tu devi sapere che il frutto di base dei fruttariani è la mela rossa. Cioè, cosa mangi tu? Antonio, tutto il giorno a mele. Ma io non lo so. Poi faccio una cena detta sequenziale, dove inizio col melone, poi vado avanti con la frutta ortaggio, dato che a parte ad agraria, a parte i frutti vendoli, nessuno sa che la verdura è un frutto, in realtà la maggior parte. Cioè, allora che mangi? Mele poi? tutto il giorno a mele, poi arrivo alla cena, faccio la sequenza con melone, un'insalatona fruttariana, fatta di pomodori, peperoni, cetrioli, eccetera, poi degli spaghetti di zucchine dopo fatti in padella. Ma spaghetti di zucchina? No, non mangi solo la frutta. La zucchina, purtroppo Parenzo non lo sa, ma è un frutto. È un frutto. I nutrizionisti non lo sanno. Ma a me, posso dire, quello che mangia sto cazzo di Max Gaetano, posso dirti, fa con tutto rispetto, lui mi tira in ballo, ma posso dire che non me ne frega niente. Comunque, per non la cosa principale la cosa per me. È un giornalista, Davide, lo immagino. Ma non mi interessa niente. Cosa mangia Max Gaetano, non è una colpa. Cosa è il Pulitzer, il premio Pulitzer alla Davide. Ma non è il Pulitzer, ma allora. Non me ne frega nulla. No, allora, Max Gaetano mi sta molto simpatico, cioè ovviamente sì, sono totalmente me, all'opposto di quello che pensa lui. Ma no, ma come detto tutti questo, miserabile, l'unica cosa fondamentale che questa sera ho imparato è che esiste un vegan gigolo che si chiama Antonio Gian Antonio. Apple Tony che vuole sfidarmi a una gara di durata sessuale per dimostrare conto che gente salta fuori o no? Tutti, adesso però, perché mi sapete, siete d'accordo qua? Io per carità. Ciao Max, a presto, ciao. Andiamo Camillo. Max Gaetano. No, ragazzi, è una roba incredibile proprio. Camillo, vai, poi Bruno, vai, Camillo, dimmi. Mancava. Sì, pronto, mi senti? Poco, andiamo a Antonio, dai, Antonio. Antonio. Sì, pronto? Dimmi, Anto. Pronto, no, io ho conosciuto i fratelli Zappacosta e tutta la compagnia. E no, ma lui, io perché ho cioè lui praticamente, intanto suona uno strumento che ci ha costruito lui, che c'ha solo due note. Il sol e il do. Si è costruito uno strumento, è già strano sicuramente di suo, però tu ci stai dicendo che ha costruito solo due uno strumento, il sol e il do. Ma che strumento è? Che strumento? Ti do 5 minuti per capire. C'ha il sol e il do. Sol, ma per questo do. L'ho capito, ma che strumento è? È uno strumento che c'è solo due note, il sol e il do, e poi ma è una persona particolare, è vero, no? E lui non risponde mai in parole povere. Cioè, che vuol dire non risponde mai in parole povere? Non ho capito. Pure tu non sei particolarmente chiaro, Antonio. No, stiamo parlando di, beh, allora, a parte gli scherzi, loro hanno fatto un tour in giro per l'Italia in taxi. Cioè, tu immagina che significa in taxi, cioè c'hanno i sordi, dici, secondo te? molti, tant'è che abbiamo fatto, insomma, ho avuto modo di incontrarli e stanno fuori dal mondo, cioè? Non sono per... Ma, cioè, nel senso, i loro problemi è che magari gli cade lo champagne sullo yacht e scivoli. Cioè, insomma, c'hanno un mondo molto diverso. Sono molto ricchi. Ma va bene, Antonio, grazie. Bruno da Latina, vai, Bruno. Buonasera a tutti. Dimmi. Salve, niente, telefono principalmente perché sto un po' incazzato col fatto della carne. La gente non dovrebbe mangiare carne, soprattutto per il fatto che dentro è piena zeppa di antibiotici. Vabbè. Non è qualitativamente corretto mangiarla. Se la trovi poca e buona, per dirsi, te la puoi mangiare. Io l'ho provato su di me. Sai che oggi sono talmente rincoglionito e distratto che in realtà l'ascoltatore di prima voleva dire che l'unico, lo strumento è il soldo. Due sono note, cioè il soldo, voleva dire. Ma che cioè cazzo il se ne frega del suo strumento? Ma che cazzo? No, il denaro, il denaro. Voleva il capito? L'avevi capita tu, Parenzo, o no? No, era troppo sofisticata anche cioè, per me. Guarda. Questa era la spiegazione. Cioè... Potenza sessuale. No! Parliamo di potenza sessuale se non ti mangi la carne, è vero. Ma quale più. Potenza? Ma non di cazzate, Bruno. Ma non di la stronza. Topa, è vero, come no? Come ma smetti no? A dire buffonata. Hai capito che voleva dire quello di prima? Adesso mi è venuto in mente. Voleva dire, cioè, conoscono solo due, hanno uno strumento con due note, il sol e il do, cioè il soldo. Questo voleva dire. Tu pensa, oh. Un genio. A domani, 18:30, ciao. Ciao. Io voglio battezzarmi alla religione della zanzara, con Cruciani che mi benedice e Parenzo che mi porta in braccio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.